vicino a te non c'era il giorno. Tu me lo sai. Hola, hola. Comunque ci provo. Adesso domani mi gambe in spalla e... curriculum pronti e iniziamo di nuovo a sperperargli. Quanto gli ha fatto proprio, se non arriva qualche cosa c'è? Ma lì mi sa che nei conti di mobili c'era uno, se non sbaglio, è fallito, ovvero linea 80, mi sa che non c'è più. Avevo preso di questi mobili a colottare, cioè una entrata a colottare, così da destra. Poi ce n'è uno in via Ettore Sciacchi alla fine, e poi ce n'è uno in via Alessandro Volta, che conosco io, quindi se ce l'altro non lo so. E via Alessandro Volta, che poi di fronte c'era... Giusto, di fronte al porto quasi rimane. L'avevo portato lì, mi sa che non è messo tanto bene quello. Quello di Ettore Sciacchi, la seconda volta non è lì. La seconda volta rimane dietro il via delle vigne. Ah no, lì non ce l'avete, non sono mai passato. E allora li porto anche lì. E faccio anche un giro lì direttamente. Non sapevo manco che cosa fossero. Poi che l'ho mangiato questo è pesce e gatto, questo è torrane, quel risotto, questo sono risotto alle rane, a posto. Ma c'è come il pesce e gatto? Ma c'è che poi il pesce e gatto lo buttano in acqua quando la pesca? Negli stagni, nei laghi e così, c'è la testa, testa piatta, come la nella pescatrice le rane. Ma queste rane saltavano nel piatto? No, non saltavano, lo erano già impanate e fritte. Ah, ciao a voi, ciao a tutti, ciao a lui. Sei entrato dalla base? E è entrato, sono e... Niente, no, le ho mangiate, però le ho mangiate perché non lo sapevo, perché se le avevo saputo non so cosa dire, non penso che ci sarebbero scese. Ma non posso immaginare, è come quello che dice che fa mangiare un tipo di carne, cosa ne so, boh, ma dice un tipo di carne, qualsiasi tipo di carne, no? E ma se lo mangio poi dico che era un cane. Vabbè, io non ci ho pensato, l'avevo portato e già, ragazzi, sono uscito dal casino da Verona a Mantova, ma ne ho fatto un po' un sacco di chilometri in macchina andando a mangiare questa cosa, a mangiare in questa cosa, ho dovuto telefonare per prenotare, e tutti mangiavano questa cosa, tutti questi 5 piatti di riso mettevano davanti tutto, o un po' di tutti questi picciolini, che puoi mangiare tutto, sai quel pesce mangia tutto, quello piccolino che si frigge, che si fa impanato, e c'era quello del risotto, il risotto così, poi c'era quei gamberetti piccoli, di libri, quelli di fiume, sempre impanati, poi con la fece di cosa di salsiccia sembrava, mi sono mandato manco cosa, comunque una roba da fare salsiccia fresca sbriciolata, mi è messa nel condimento del riso, boh. E più quest'altra cosa che a scaglie, tutta poi a scaglie in mezzo a misciato, non sapevo cosa fosse, invece erano rane, cazzo, sono tutti tagliati così, poi a scaglie in mezzo a un riso. E no, però magari erano di ciò, erano lui, comunque buone erano. Non dispiaceva, dai, per il riso gli dava un gusto buono, perché mi è piaciuto di più di quei mangiatute, di quei gamberetti, perché erano tutti duri, erano i toccabili, i pesciariti, erano esecchi che palla, quei mangiatutto, mi lo sai, quei pescettini, quei pesciolini mangiatutto, erano proprio cotti, proprio duri, cazzo, croccati, quando mangio una cosa croccante, patatine, quelle croccate. Vabbè, ormai, come viene di sole, muova. Avanti Antone, ciao Antone anche a te. Ciao Lu, buonasera. Ma sai, sono con te bene, già fa piacere provare nuovi piatti alla fine. Siamo sempre abituati sempre a mangiare carne, agnello e porcetto. Ogni tanto bisogna cambiare, a sorpresa sempre. Guarda, io mi sono mangiato adesso, guarda, non ci volevo andare, eh. Un kebab lì in via. Che cazzo di via è? Via. Via 4 novembre mi sa che sia, se non sbaglio, forse via 4 novembre, ma buono è, ma buono veramente, è un, come si chiama, un, chiamiamo la paninoteca di arabi, ma veramente buono, con 4 euro ho fatto una cena. Quindi lui ha mangiato carne di cammello con 4 euro, visto, ed è soddisfatto lui. Ma qual è il nuovo locale, si chiama Casa Blanca. Sentito io, già hanno la carne di cammello lì. La roba del cammello però. Lì lo so cosa fanno. Ci sono un po' pianto. La tagliamo un pezzo, no, la tagli che mi serve ancora. Fiscia mi serve sempre, no? Però sì. Avanti, Antonio. Ehi, allora io stavo... Aspetta, stavo chiamando un capo veloce e sto arrivando, aspetta. Ma come sento 10 minuti mi faccio. Metto a posto la camera che c'è un casino qua. Andrà bene. No, io poi domenica notte siamo andati sempre in una trattoria lì vicino che già siamo andati un paio di volte. Quelle specie di pettuccine, tagliatelle, quello che chiama alla boscaiola con tutti quella crema, tutti quei funghi, porcini e cosa sopra, qualcosa fossero, con arita ira, ma questa fiorentina da voi, un poco di contorno di patate in forno, insalata e via dicendo. Sono funghi triforati. Ma buono, era pure che l'ho visto passare. piace, ha detto no, la voglio pure io, ha detto no, non voglio quella lì, voglio quella per primo e poi una bella fiorentina in forno come l'ha fatta l'altra la notte prima e ultima, in forno, forno a legna, quella delle pizze, dentro lì messa, buonissima. A sangue? Dai, gli ho detto, nella via di mezzo, però era un burro era, Io non sono un burro, è che quando lo mangio a Roma, la fiorentina, si poteva tagliare col griscino, appena. Per ragione, perché a Roma siamo andati in un ristorante, un coso che erano anche sarti, lì a Roma, ed era già... Il ristorante Zadanka, si può immaginare, il municipio Zadanka, ed era una stanza, era poi in periferia, in via... una via molto famosa a Roma, quella via lì. È sempre, esisteva tanti voci, molto male, ma molte volte quella via lì. Non mi viene, però si sta sempre nome da. Eravamo lì e lì chiamate, lì anche lì abbiamo preso, e ragione tua ci ha dato una fiorentina, cara, anche quella era meravigliosa lì a Roma. Ma le condotti? No, via, non ho veramente di lo dico. Lì a Roma io ho trovato un tipo sardo e ci ha detto adesso vi tratto male, il cazzo ci ha fatto mangiare i 7 gradi e ci ha fatto un prezzo buonissimo. Via Momentana. Via Momentana, sì. Momentana, è quella che ho capito anche dove, lo sai. Ah, ci sono andato anche io in quel ristorante, lo sai, dici. Lì abitava la zia di Liliana, di mia moglie. E quando siamo andati in viaggio di notte, non ci ha voluto fare andare in albergo, ci ha voluto ospitare lì. Però noi ci facevano tante cose da mangiare, però noi avevamo anche nostalgia di andare un giorno a spassarcela insieme in un ristorante, così. E abbiamo trovato questo ristorante, adesso ci siamo fermati, abbiamo mangiato, poi torniamo a casa sua, a casa ci aveva preparato la cena, lui come fare, come non fare. E non abbiamo voglia di mangiare oggi, che vi ho preparato tutta questa roba, poi la butto via, io ho mangiato, ci è uscita dagli occhi, era buonissima la roba che ci ha preparato, però ci è uscita dagli occhi, ci abbiamo cenato due volte, quella sì che era veramente un piacere. E così, dentro è grande questo ristorante, sono gli scale, un paio di gradini a salire su, e per fuori mi viene rimane dentro una stradina che andare all'interno, è quasi in periferia, Zadanka, c'è molta tutta roba stata appesa dentro e niente, è un bel locale, cioè, poi ci fanno molto i vippi, stavamo guardando tanti di quei vippi, squadre di calcio, facevano tutte le foto, tutte le cose questo ristorante, capito? Infatti si vedeva che c'erano tanti personaggi dello spettacolo, tutte quante le foto fatte le cose andate tutte al muro, erano in grande. Antonio. Chi è quasi finito, dimmi tutto. Riprenditela. Allora qua Fiorentina non ha già mai visto. Qua non si usa a fare le fiorentine forse. Poco l'ho mangiato, la verità, a Olbia, quando lavoravo lati, locatenamenti. Veramente buona, morbidissima. Una volta sola in vita, Eda. Sì, ma qua, io non ne ho mai visto macelleria per dire con la città fiorentina. Non l'ho mai visto, sinceramente, mai lottato per me. E anche macelleria nostra, dove lavoro io, non ne ho mai... poi le volevo chiedere a Gianluca, macelleria nostra, se le fanno, non le fanno su ordinazione, non lo so, ma è stato preso anche mezzo chilo, ma Firenze ha preso anche mezzo chilo. Ma io so che meno male tutte le macellerie c'è, diciamo che un taglio particolare, però se tu conosci veramente il macellaio ti dovrebbe dare... qualcosa come si deve, perché già nel bancone già mettono quello che vogliono loro, poi a chi conoscono bene già gli danno dei bei tagli e carne selezionata. Se lo conosci bene il macellaio ce lo dovrebbe avere per forza. C'era Tone, già in fiera c'era, te l'ho detto, te l'ho raccontato, in fiera c'era le fiorentine, c'era il pezzo da tagliare, bella, era bella, questa carne era meravigliosa da vederla, si vedeva, era un bel taglio di carne, e c'erano tutte messe le fiorentine tagliate, da spessore minimo, era, ce n'era qualcuna che era quasi 4 centimetri di grossezza già. E finisci da luce, eh? Io già sono carnivoro, ma non a quel punto, e qui dico basta. No, io dico la verità, quella che abbiamo preso a Roma, con mia moglie facevamo così, io prendevo la cosa e io prendevo l'altra, poi c'era di Vigliano. E io assaggiavamo tutte e due le cose, tutti e due, la piccola. Sì, no, a Roma era bella Fiorentina, infatti ha mangiato il primo, non l'abbiamo preso, Non ne abbiamo preso, abbiamo mangiato questa fiorentina che ci hanno consigliata e guarda, era spettacolare, ma ottima, buona veramente, quella di Roma. E questa abbiamo mangiato in forno a legna, non te ne dico nulla già, l'ho mangiata ai ferri e ne ho mangiato, tanto anche domenica notte noi a mangiarla, diciamo la verità, anche se abbiamo rischiato la multa nuovamente, siamo entrati con un camion e siamo andati nuovamente a questo non mi viene, vabbè, comunque l'avete fatta un'altra, ancora le fiorentine si devono andare, diciamo che siete portati avanti. No, assolutamente. E ti dico, domenica notte è tagliato anche quelle tagliatelle alla boscaiola, pure lì si è aggiunta, non molto, ho detto una porzione in due, ha detto fa una cosa perché è troppo una, però siccome ho visto che stavano portando altri, ma era pieno mica questo ristorante, questo ristorante, trattoria piena, ti dico, piena, sì, la tavolata è piena. Abbiamo detto una porzione in due, a dividercela in due, capito, di tagliatelle, ma era limone, me ne avete mangiato tutta l'altra, la porzione in tre, ahi, pure il pizza per il fatto. L'unica cosa a Roma è che quando siamo andati a mangiare le pizze, siamo andati al ristorante, andiamo a mangiare le pizze, lì facevano anche le pizze e coso, e tenevano la mortadella proprio vicino al forno. Poi se tu chiedi la caprese ti prendeva la mozzarella vicino al forno, ti faceva la caprese, che se la mangia questa la caprese a casa di coso, i pomodori caldi, va via. È positivo, positivo. Comunque anche in Corsica c'è carne buona, eh. Anche in Corsica l'abbiamo mangiata buonissima, anche in Corsica noi mangiamo carne quando andiamo in Corsica. Io prendo sempre la bistecca, i ferri e l'insalata, boh, non prendo altro in Corsica. Tipico? No, non lo so se è piatto tipico, io quello prendo perché non mi fido a mangiare altro. E il pane già lo mangio, ma lo mangio, non lo mangio tanto volentieri perché il pane lo compro senza busta loro. Addirittura ho visto passa che il panettiere gli fila la baghetta, questa cosa si chiama, quella specie di bagnotta ronca, e se ne fila un tubo di PVC in casa, no? Fuori nel cancello c'hanno il tubo, se lo metto senza busta, senza nulla, se ne fila dentro il pane, se ne fila dentro il buco, questo tubo di PVC che hanno messo per il pane. Già lo sapevo questa della baghetta, là io c'ho una parente che praticamente è la moglie del cugino, è la moglie del cugino di mia moglie, che è francese, e ce l'hanno già detto che te danno in mano le baghette. Noi siccome potevamo viaggiare, eravamo lì, potevamo riprendere il viaggio, e però foro di pane lì la vestina. Lavoratori erano le 7, neanche pure, perché siamo dovuti partire alle 7:15, da lì siamo dovuti muovere. E vedevamo che entravano, uscivano con una cosa sotto allo braccio, una baghetta sotto allo braccio, e se la poi in macchina la pugliava, se la buca se sta rotta. No, non esistono, loro vedete non ne hanno, le sedere non se lo lavano mai, solo quando entrano a farsi il bagno in acqua, in mare. Ma è brutta, ma che dai, come non si lava? Si faranno il bagno, boh, non lo so, la doccia, non se la faranno. Ma vedete non le usano, boh, Antonio, cosa ne pensi? Io penso che il biglietto me ne faccio, nel senso non lo uso, diciamo, col sanitario, mi faccio direttamente la doccia. alla fin fine, non una volta alla settimana, un giorno sì, un giorno no, però per più fideno sinceramente. Io me lo faccio, io ogni volta che vado in bagno lo faccio sempre, bevi sempre. Poi direttamente, tutto lavato, non aspetta i piedi, ben sgrassato, la Puglia. No, me la faccio sempre anch'io, però oltre a quella lì, quando io vado in bagno, poi non mi faccio il bimilavo, e ogni volta prima di uscire, sempre. Ma poi per il fatto di mangiare, guarda, penso anche se chili di Fiorentina si avrebbe mangiato quello che fa Men vs Food. Ma quello non mangerò con gusto, questo si ingorda e basta. A me mi piace gustarmela la roba che mangio, questo si ingorda, è come lo struttolo, gli metto un imbuto, quello per ingrassarlo gli metto di fare la roba, questo si sorrisce, avanti. È positivo, positivo. No, boh, non lo so, beh, non è che rimangi sempre, adesso eravamo lì e l'occasione era buona già, tanto pagavi lo stesso, anche se mangiavo un'altra cosa pagavi lo stesso, e poi non abbiamo pagato nulla, si può dire, rispetto a come si è, come a quello che abbiamo mangiato non abbiamo pagato nulla, capito? Perché 40 euro metti in due per aver preso il contorno, deve servire tu quello che volevi, metterò lì il coso, la pettrina, andavi, ti mettevi quello, però per niente malavocato ha voluto il bucci, si pianava un piatto, se lo mangiava, se lo doveva andare, se lo doveva pianare, se lo mangiava, se lo doveva andare, se lo doveva pianare, cazzo, se lo guardava con male, se lo mangiava, quello che stava, vedi che c'è pure la faccia di culo che fa ricchio, cazzo. E poi, ma tre volte te l'ha riempito il piatto, andava, se lo finiva, andava se lo riempiava e se lo riprendeva tutto il contorno e la cosa. E già lì non lo mangiava il contorno e non l'ha ordinata a pronuncia. No, ma io sto dicendo a te, ma sto dicendo quello di fast food, quello che dice, che dice cosa Antonello, quello che dice mangiare certi panini, ma mangiati a morsi grossi, che altro non ti va a rimacco gusci blu, ma tu hai fatto bene. E l'altro giorno siamo andati in quel ristorante cinese che c'è la Perdanida, quello nuovo che hanno fatto. Cazzo, c'era uno 5 volte si è alzato a mettersi la roba, 5 volte, noi una volta solo, cazzo, l'avevamo già pensato, tutto. C'era anche il gelato, tutto qua, tutti i sensori, capito? C'è il pesce crudo, pure gli rapporti, c'è l'elastice, le rapporti crude che l'hanno cotta. C'è quando abbiamo parlato, c'è pure la testa, siamo crepati. Per dirti, c'è gente sempre che approfitta, che fa, e poi si sentono male, si lamentano che si sentono male, no? Luca! Sta mangiando! Ah, io ho collegato mio, gli altri, se l'ha fatto lì, e tu pure, la fuce la fino vero piatto. Poi non vai a cagare un giotto. E se vuoi, dolore matta, la diarrea. È così. Dopo te sei cagato giù. Qua impara, la come ti girare alla usi, oggi giusto. È troppo strano, era, e non sei in cambio con me, la certo che oggi è ripartito, no? C'è il rischio che non partiva mi oggi, grazie a questo caffè andare nuovamente io. Cazzo, e lo vedo mostrare, e adesso ci prendiamo questo caffè, facciamo la cosa, no, troppo, tira ancora. E lo vedo mostrare, seduto a fianco, tira, ma abbiamo, no, via, e stavamo un altro area di servizio. E fermati, io mi sono andato in bagno, vabbè. E ha preso, e poi quando è uscito ha preso caffè e una pasta frutta a mangiare. E abbiamo una convinta, dicevo la pasta mi fede male, la pasta, adesso. Come già stavamo prima io, poi ho detto, ma andate a cercare il campo laterraneo, un'area di servizio, è cosa da bombardare in chili, ui. E ci siamo riusciti a levare lì a cosa, caricare questa cementeria che non ce la faceva più. E stavamo un po' in attesa, lui era sudava di tutte le maniere, sudava e coso. Poi che siamo entrati dentro la cimenteria, ha chiesto urgentemente il bagno. E la sera per fare l'opera chi pite si è cagato tomato giù. Oh, e io sto scherzando, ho detto tutto cambiato, se coso. E ha passato, sì, mi sembra mi sia passato, no, la casa abbiamo finito che era già l'una e qualcosa, l'una e mezza, la casa andiamo a mangiare adesso, là, c'era la mensa, un coso lì, andiamo che mangiamo qua, una cosa in bianco mi prendo, una cosa in bianco e poi prendi quello che vuoi. E niente, e ha mangiato qualcosa, ha mangiato lì, e niente, e il caffè non ne ha preso perché aveva paura, poi dici ma pure e c'è dovrà cagare sotto, tu poi sei montato, te l'ha fatto, tu sei montato, e c'era la valigia con la roba presso, tu sei dovuto salire il cazzone dietro, era carico di cemento, c'era lo spazio, un paio di metri, si è arrivato in coda, ha preso lo sportellone, è dovuto entrare dentro il rimorchio. Sì, due volte si è dovuto lavare con le bottiglie dell'acqua che c'eravamo da bere, o per bottiglie da 2 litri l'abbiamo comprato, si è lavato con le bottiglie dentro il rimorchio, dentro sai, quello coperto, si è detto boh, però guarda che non è roba elementare quel cemento, ci ha buttato due mutande, per fortuna ne aveva delle, poi è rimasto senza mutande pure. Che cazzo deve essere brutto, ci ha fatto il chiuso. Allora, Luca, mi è successo, spesso ci stavano invitando, c'era una gara, cosa, ci hanno invitato praticamente a pranzo, eccetera, eccetera, c'era una premiazione, e non dico dove, cazzo, sono stato in bagno, mi feci da pranzo, una cosa mai successa. Ma è successo, al muro il cazzo si è attaccato. Cazzo, dopo che esco io ho detto a quel signore che stava aspettando un figlio, ho detto, no, non ti fa perché tutto sporco, sono entrato tutto sporco. Cazzo. E io ho bisogno di tanto di un'altra, e poi ho detto, mamma mia, che odore! Immagino. Lo so, cazzo, è stato male, cazzo. Poi siamo arrivati a Genova e hai vista cose, però tu dove facciamo i biglietti c'era una farmacia, ti ha detto va, no, è entrata a comprarci i limoni, ci ha comprato 4 limoni e c'era una farmacia, ho detto chi è la farmacia, ti dà quei così, come chiama così, ti chiamano, ha detto che ti passa, che quello ti... E infatti quella farmacia ce ne prenda due subito e poi una più tardi, e se ne ha pigliato lui, o se ti deve andare sopra la nave, si è cotto un pantalone e tutto sopra la branda, ed era sul racchetto, ha passato una giornata di merda, cazzo, io ho caricato tutto da solo, non potevo fare, ha fatto una giornata di merda lui proprio. Bene, molto, ma la sorte. Non so se cosa va, ho avuto quello di scommergiare, che ha bollato la schiccia. Andiamo a mangiare, e mi dice, no, dice, pensavo che... allora, questa cosa mi ha fatto, se voi lo vedevano fare, se la facciamo... Ma detto, nel mio detto, c'è il bagno, sono entrato io in bagno, ho detto, a fare acqua, ho detto, pensa, ho detto, alla mesa, non ci torno. Sono alla mesa, ho detto, senti questa cosa. No, dice, mi sembra che mi sono sporcato, dice, perché pensavo che chi ci usciva lo scorro, dice, invece se ne uscite lei. Che cazzo è stato torno. Non immaginavo, ma poi gli scursi, E no, che sono già sono abbastanza interessante, ma strano che Gigi non abbia riso tutto il giorno, lo dice troppo seriamente qua, mi sembra strano che si è pisciato da ridere, io non ce l'avrei fatto da ridere, io gli avrei riso in faccia qua, tutto il giorno, di fronte di me. Io lo so perché non ride Gigi, perché poi tocca a lui andarci, gli ha detto andarci, ci deve trovare il collega, quindi se è stato male deve trovarci lui. Perché lui ha lasciato il camion suo, l'ha lasciato, hai capito? Si è andato via col mio, capito? E lui è tornato con me, capito? Vabbè, discorso. Però il discorso è detto che questo mi caga dentro in camion e mi incasina tutto, hai capito? Il discorso mio era quello. Ecco perché c'è il Gigi nel portavoce. Era annullato, l'ho preso, era più portato il cambio che l'amico, ecco perché. Comunque poi si è preso con due di questi infelici di quel cazzo e io mi ho fatto la doccia, lui si l'ha fatto sopra un rito, io mi sono fatto la doccia. No, ho preso la cameretta, anche se c'erano 4 pozzi, tanto 6 euro in più paghiamo e abbiamo la cosa a conto nostro, la cameretta. col bagno e tutto quanto, paghi 6 euro in più e ce l'hai per i fatti tuoi, che non c'è altra gente in mezzo lì, aggiungi tanto di volte ce n'era, e aggiungi 6 euro in più e rimane, e non c'è altro nessuno, capite? E a un certo punto gli ho detto, Mario, io, ti dai conto il ritto, ha cominciato a surragare una cosa, ma dopo 2 minuti mi era io sul racchetto, era il racchetto, la cosa del gioco, la lì che ha passato, la giornata che ha passato, non lo so, ha cominciato a surragare, e poi si è scintato, ma quando c'è stato, si è svegliato. Vabbè, ho detto, guarda, ma io ho detto, poi sono fatti quasi le 9. Perché siamo entrati, sono state le 6 e qualcosa, mi 6 e un quarto, eravamo già stati piccole sulla nave. E siamo quasi le 9, ho detto, ma io vado, me ne vado su e un po', ho detto, ti aspetto e vieni. Ti aspetto vicino al bar, lì al ristorante, al coso, su della nave, ho detto, quando ti incontro, ho detto, sono mi trovi, mi fa uno squillo. Però davvero sì, c'erano qualche pullman che erano ragazze, non so di che cos'era, andavano a pallavolo, giocavano a calcio, cosa faceva. E stavamo giocando un po', ci sono quella storia di videogiochi, di cose, macchinette che giocano. Ero lì, mi sono un po' messo lì a guardare a questi ragazzi giocando, questi giochi, una cosa e l'altra. E sono fatti quasi le 9 e mi ha fatto lo squillo e mi ha detto vero, era. E siamo andati a cena. Io ho preso gnocchi, guarda, su, qualcosa del genere. E non abbiamo dovuto guido l'altro, come si chiamano, la fregola al sugo. E come sei, via a tirare un sugo, e così mi sappiamo detto, voi siete a cagare sotto un'altra volta. Mi sa se quella sugo, quella fregola al sugo si è preso. Ma quando si produce degli immuni, un subito con la bocca alta. E i limoni, io nel conduttore metto che piglio con quelli limoni, non fanno un capo i limoni, bisogna mangiare patate e carote bollite per passarti bene. Infatti c'è sempre questa mania, un limone, un tè, c'è mal di pancia, ma non è vero, poi neanche, sinceramente, sì, un riso in bianco, ma molta gente intende il bianco col burro, senza niente, sono frutta e verdura perché devi integrare i sali minerali e acqua, perché c'è questi problemi, ti disidrati. L'unico rimedio è frutta e verdura o pasta in bianco, ma nel vero senso della parola bollita, ma senza condire. Ora sì, inizi a piano piano a stare bene, ma se mangi altre schifezze non te lo regoli più l'intestino. C'è sempre questa mania, Sì, appunto, il viso è astringente e vuole praticamente mangiato così bollito senza formaggio, senza condimento, senza burro. La crema del viso, quella lì fa bene, quella crema che fa il viso quando lo cucini, solo che quando tu fai il riso in bianco il burro di rubone, io ce lo metto anche a cucinarlo. Sì, quello sì, ma contro di quelle difficoltà, ripeto, molta gente, ma di pancia, fatti un riso in bianco, ma in bianco l'ho preso col burro e un po' di formaggio, alla fine non è che ti risolvendo chissà che cosa, frutta e verdura ci vuole, basta. A me mi ha detto, il mio dottore mi ha detto, patate bollite e carote bollite, senza condimento, mangi questo e ti passa subito. Anche così giustamente, sì, ma sempre evitando pasta al sugo e compagnia bella, quello c'è poco da fare, però c'è sempre questa mania. Oh, io vado a mangiare qualcosa, dai, al limite dopo, se ci siete ancora, vado a fare, se no mi si raffredda pure. Dopo aver parlato di questa cosa, ti dico ancora quello di mangiare. Positivo, già è lontano, già è arrivato a Verona nuovamente. È già lì, mi ha dato il partitenaio oggi. Se non è di giorno, perché io ho attacco di gusci, non mi sono manco due a guida. Mi tocca ancora cagare la guida. A Tarraccia, ma no, avrebbe guidato ieri lui, Ieri proprio come stava, poi c'era una febbre alta, l'ho toccato e bruciava, c'era una febbre, io ho pensato che fosse quel virus che c'era, che mi aveva preso pure a me un po' a mal di faccia, capito? C'era la febbre altissima. Infatti il virus che faccio la luce l'aveva fatto anche a me, l'ha preso, guarda, questa febbre, io di febbre è difficile che ne prenda, proprio febbre, la febbre sì, ma la febbre ma questa volta mi ha proprio buttato giù di brutto, ma perché di avere a me. Era un virus, sì, che prendeva lui. Dai, che vado, se ci sente rispetto dopo, dai. Da, ciao, ciao, appetito. Anzi, non già, G. Me la carica, G. Allora, era da vedere. Guarda, io mi sei pisciato da ridere, guarda. Sì, l'avrei aiutato, ma due belle risate me le avrei fatte. Più forte di me. Bastardo. Una volta ci chiamano i carabinieri, quando ancora non c'era il 118. C'è un'urgenza da fare in via Montego, me lo ricordo ancora. Un'urgenza. Sì, sì, un'urgenza. Intanto ho fatto quello che ci viene, era due passi da lì. Ma dove avevamo la sede noi a via Montello a due passi. Praticamente via Montello è dopo la rotatoria, che c'è, hai visto, c'è la rotatoria per andare verso il chilometro lì, no? Dopo quella rotatoria lì c'è attraverso quella del rifugio e quella via Montello. Mi fermo di vedere i lampeggianti dei carabinieri. Mi fa, non ha pensato qualche incidente, qualcuno l'aveva investito. Però era un tipo che stava mettendo un fuoco alla macchina della ex convivente, che l'aveva mollato. E col bidone stava mettendo la benzina, qui del palco l'hanno visto, l'hanno chiamato i carabinieri che me l'hanno visto buttando la cosa, hanno tolto la pistola, mi hanno detto fermo lì, si è cagato sotto. Sotto proprio letteralmente cagato e c'erano pantaloni praticamente come si usano adesso. Infatti dico questo perché sembra che si siano cagati addosso le donne quando si mettono i pantaloni larghi larghi, che non mi vale tutto il cavallo. E praticamente camminava tipo doppio rum, non tipo me, tipo doppio rum in velo, con le gambe arcuate. Cazzo, me l'ha fatto salire sull'ambulanza, ci ha fatto salire qua, che ci sporca la macchina, sono la bagaglia loro, l'ha messo l'incerata nella barella, e lo facciamo sedere sulla barella, no, no, fatti, non mi arrestate, fatemi andare a casa a cambiare più la, no, cagate ci va in galera adesso, cagate ci vedete il carabinieri. Poi dice, parlate del caserma, si portano in caserma, praticamente l'accompagnano sino lassù e gli fa il collega, metti un po' di carta nella sedia che ci abbiamo un cavolo da interrogare. Che schifo, ho avuto una figura di merda la beffa, che schifo, bella figura, non mi sono ricordato tutta la vita questo. Cazzo, un cavolo da interrogare, prima ce l'ha fatta portare tutto il soccorso. Perché non lo portiamo a fare tutto il soccorso, lo portiamo lì magari un anteccato, qualche cosa del genere, vogliamo sapere a che livello è, non so. Se lo portiamo tutto il soccorso con il dottore, e cosa rifacciamo? Li puliamo il sedere, li puliamo, si è cagato addosso. Sì, magari si è spaventato, non so che cosa, è scioccato. Ma cosa gli verranno fatto per il gatto e per il cane? C'è un cagone da interrogare. Carità, cazzo. E a Cinesiana succedono cose strane. Ascolta, tu mi hai curiosità, ma stavo sentendo che si stava organizzando di nuovo qualcosa per la 27, c'è qualcosa? Sì, so che si deve fare la Corte Santa Maria, e che praticamente dobbiamo fare la domenica dopo Pasqua, ma poi non si è fatto nulla, anche perché diciamo deve parlare con la persona là con il cappuccio, capito? Quindi e siccome è impegnata in questo periodo non penso che abbia tempo di fare queste cose. Adesso come si sblocca un po' la situazione che sta trasferendo di casa, quindi come si sblocca un po' dovrebbe, altro che interessarla la persona di la Corte Santa Maria, signor Carto, interessava che lo facessimo, se dobbiamo mettere solo un accordo per quando. Ma speriamo che funzioni. Beh, già funziona, non ti preoccupare che sai cosa c'è? Che non ci sono i gruppi che danno diciamo disponibilità alle persone che vorrebbero attrezzarsi di farlo. Cosa c'è qua? Non è nulla, se non lo fanno su internet. Che senso nei gruppi? Non ti ho capito, no? Per esporre la cosa? No, come? Ammetti che una persona si vuole costruire si vuole fare una stazione. Che ma qua non c'è nulla, i negozi che vengono queste cose, una stazione come si deve, dove te la fai? Se la compri su internet. E in quello sono pienamente d'accordo, oppure ordinare lì da Fusaro, ma ci passano non settimane, mesi, ed è una cosa veramente assurda. Però ho avuto diverse esperienze, non mi fido più né di Fusaro né di TelaGBC. Se ce l'ha presente, come la colonnina me l'ho presa subito. Niente, se ce l'ha CD, ok, se no ciccia, la pittola, un denaro non fa, perché ti fanno un rifondito. Sì, è vero, e poi oltretutto devi anche pregarli. Per farti arrivare un pezzo, che poi alla fine ci guadagnano, porca miseria. Guarda, col corriere 3 giorni è qua, ma che ti mettono le spese di spedizione a carico tuo, quei 10-15 euro, ma almeno ci guadagnano, bello, manco quello fanno, sono veramente allucinanti. C'è un nefreghismo, guarda, impressionante a Sassari. Allora, io gli ho detto che il discorso è anche di dare di su di prima, non c'è un problema. Interessante che me lo diranno, sì, non va via, non ti preoccupare, me lo smetto al contattore, un attimo, te l'ho detto G, HP1000. Beh, anche me lo diranno, se passa una settimana ci mettevo a arrivare, questo mi ha fusato. Sono andato la settimana dopo e niente, sono andato dopo un mese e niente. Dice, non sai cos'è, che non ce l'hanno più. Come dice adesso? No, dice non lo fanno più, come non lo fanno più? Vado su internet, cerco nei negozi ebay, vado su tecnocomunicazione e trovo lo strumento in vendita nuovo. Servono già direttamente i negozi, no, quello già è vero. Sono allucinanti le ordinazioni, però ho visto anche molti modelli della Delta G non sono neanche più in produzione, per dire, come il BV130, il 131 sono già fuori produzione, l'HP28, il preamplificatore lo stesso, sono molti pezzi che non li fanno più, Sicuramente l'avevo guardato su internet, c'era già il negozio come merce lì avanzata, però sì, è già vero. Volendo loro c'hanno altre aziende, hanno altri contatti, no, non si mettono d'impegno, quello è pienamente d'accordo. Conviene comprare su internet negozi sicuri, che c'è almeno il massimo della garanzia, in giro di 7 giorni lavorativi a lei a casa, no, non conviene veramente ordinare a Sassari. Poi si lamentano che la gente non compra. Ho comprato nuovo, Antonio, nuovo di zecca, con garanzia e tutto. In 3 giorni era a casa, Antonio. Ma te ti correre, dove ti pigliano per il fondo, e dovevo farlo arrivare dopo 3 giorni a casa, tranquillo. Infatti, alla fine sì. O ce l'ha qualcuno in ottime condizioni, sono alla fine sì. Viva internet, sono veramente, qua saremo veramente ancora al tempo della pietra, perché non c'è veramente nulla qua. Sì, è così, bisogna ammetterlo, qua non c'è proprio niente. Se non vai oltre mare non trovi nulla, non lasciate proprio nulla. Niente, io sempre adesso sto sempre acquistando su internet, ma solo nei negozi, non compro più roba a seconda mano perché mi hanno rubato già 200 euro, io sono da buttare, non ne ho. Qua alla fine non su internet questi 200 euro, no? Sì, su internet. Stavo guardando un Galaxy che ci avevano praticamente, dicevano di avere questi Galaxy davanti al magazzino, ancora nei cartoni, tutto quanto, e che davano nel mio di più 5 in omaggio, 200 euro, cazzo. E questo amico mi ha detto, già ce lo compriamo, era partito anche questo qui del Galaxy, vabbè, ti do i soldi, ce l'ho fatto un pagamento per questo lato, la necessità che vado ad avversare, lui c'aveva un'attività, quindi... Giustamente abbiamo visto tutto il sito, tutto quanto, numero di telefono, abbiamo chiamato, certo sì, basta che fate voi il versamento e da poi che vi arrivano entro tre giorni. Ah, arrivati sono, mai sono arrivati. Poi non, potete, non avete provato a incrociarla, a fare una denuncia, nulla, l'avete lasciato perdere così. No, tutto fatto, quello che avete detto è tutto fatto. Ah, abbiamo telefonato, non rispondeva più nessuno. La polizia postale, che siamo andati via, hanno scoperto che era un'organizzazione internazionale che al giorno fregava non so quante persone, migliaia, e ci hanno detto che facevano vita a Barbie sin quando li usavano la porta, li mettevano in fede, ma questo è molto difficile, dice perché? Perché è un'organizzazione internazionale, il sito è stato fatto per dire in Polonia. La telefonata è stata fatta in Inghilterra, è stata ricevuta perché noi prendevano delle schede che ricevevano solo, poi non potevi chiamare, capito? Ricevevano un'altra volta per prendere e scappava, lo ritiravano e nessuno li scappava. Brutti bastardi, ma vedete, siamo gli studi, hanno detto, guarda, veramente allucinante, è l'unica compagnia di comprare da negozi. Negozi già avviati, contatto di via, numero di telefono, trovare il sito, tutto quello che comporta per la sicurezza. Lo compri nuovo e ciccia, almeno sai che ti arriva, 2 anni di garanzia di prima mano, non è l'unica è quella, aspettare, spendere qualche spicciolo in più almeno, almeno dormi tranquillo. Ma adesso sento poco preso per i fondini, se l'avessi avuto in mano dopo l'hai ammazzato. 200 a me, 200 con l'amico mio sono 400, poi mi ha telefonato un amico mio da Roma, mi ha detto già, sto prendendo una macchina fotografica che qua a Roma costa 1200 euro, sto pagando 600 euro la metà, la stessa macchina, la stessa modello, gli ho detto, come stai pagando? Con Western Union? Dice sì, blocca tutto perché è una truffa. Cazzo, ma davvero? Aspetta che anche mio amico se vuole comprare sul mio telefono, poi lo faccio spediti subito, dallo bruciato, 600 euro di costo. 600 euro, minchia ragazzi, almeno per fortuna ne hai salvato uno, se no guai. Chissà, sicuramente ancora questa gente sarà ancora attiva con queste scene. Mi avevano cambiato qualche altro articolo, sono sempre lì in movimento a fottere la gente. Allora, io stavo partecipando a un'asta su eBay, dove c'era questo Galaxy Saturn Echo, e l'asta l'ho persa perché all'ultimo momento si è presentato questo, crack, che me l'ha fregato, per pochi lire. Vabbè, subito dopo mi ha contattato questa persona, per vedere se a me interessava, che lui aveva due, avanti da davvero, che c'era un negozio di questi articoli qua, eccetera, eccetera. E gli ho detto che per il momento ci dovevo pensare. Poi Salvatore Maestale mi ha detto già, allora ci riprendiamo, anche a me vi ha contattato, capo, questo qui è vera la cosa allora. Ha contattato anche a me. Allora lì abbiamo telefonato per sapere, diceva, vi regalo anche vedevi più 5 insieme all'apparato, che è un microfono che si adatta molto, cazzo. E non va bene, cazzo nuovo, ma se li paghi sono per darsi nuovo proprio di zecca come lo desideriamo noi, cazzo, ben contenti, cazzo Antonio, una delusione, cazzo noi ci mettiamo subito da parte, cazzo per prendermelo, cazzo pui, affanculo. E sicuramente per come vi ha parlato questo, per le mie PV5 sicuramente era qualcuno esperto di queste cose, sapeva già come parlare, il minimo era un CB anche questo. Non è una persona, diciamo, sprovveduta, Sì, sicuramente c'è qualcuno che è lanciato in queste cose. Ma un'organizzazione internazionale, capisci che c'è tutto il mondo in mezzo. È una cosa a livello... Praticamente il sito, se tu lo vuoi, come l'ha fatto, c'era il camion dell'autotrasportatore, c'era il numero di telefono, col telefono disegnato, tutto quanto bello fatto, capito? È allucinante. La verità, io se avrei avuto qualche spicciolo, un vecchio baracchino me l'avrei comprato, almeno uno, però con bande laterali, per averlo di scorta e basta. Anche il vecchio modello, solo che ce ne sono tante su internet, ma c'è sempre quella paranoia, giustamente sulla possibilità. Se no l'unica è trovarli questi persone qua in zona che ce l'hanno, ecco, così lo puoi toccare, provare, se funziona te lo prendi. Però da internet veramente neanche così di seconda mano conviene comprare anche vecchi modelli, per dire, anche lì c'è sempre la fregatura secondo me. Vediamo, sì, che arriva ma in condizioni pessime, che non risulta, come per dire, guardando in fotografia, ti fregano anche lì, A te, io dico una cosa, l'uomo Sibirino ha preso, giocato all'acqua, mi ha comprato anche a Claudio. E Claudio, per un apparecchio addirittura che mi piaceva, sono stato sino a mezzanotte per dare l'ultima cifra. Sino a mezzanotte ho giocato e sono riuscito ad aggiudicarla. Era un apparecchio che piaceva a Claudio e a Luis. Praticamente l'ho fatta arrivare alle buone condizioni, mi ha tenuto il futurato. Poi ho giocato, ne ho preso parecchia di roba, non mi hanno mai fregato. Questo figa ha futtito, anche Claudio ha preso una fregatura lo stesso, anzi più di una, ma Claudio due o tre volte ha futtito. Ma è una cosa che se sanno fare bene non ti ricordo più di quello che ho fatto, ho telefonato per vedere se mi diceva la cosa, mi ha risposto, mi ha parlato, tranquillamente convincente a me. Allucinante. Sono bravi maledetti. Ascolta, quello che hai per dire acquistato tu sempre all'asta, alla fine tutti quei apparati che tu stai dicendo che hai preso anche a Claudio. Sì, all'asta, infatti sono stato insieme a mezzanotte per dare tutta l'ultima cifra. Guarda che io sono stato uno dei primi sui B che entravo, infatti molta gente mi diceva ma non prendi questo, l'ho preso a Lucca l'apparecchio, qua non trovo un Mobicom più microfono amplificato, più era Mobicom modificato di quelli che tipo quello dei camionisti così, no? C'era la camera ecco eccetera, quasi €40 ma l'ho preso mi pare, una gattata. Vedi un po' se trovi qualcosa, se ha due citi così contati va bene, qualche vecchio apparato funzionante, in banda, che abbia anche le bande laterali. Vedi un po', se trovi qualcosa mi fai sapere. Ok, non c'è problema. Ma io non è che abbia più fiducia, la verità. Non ho più fiducia di queste cose, perché dalla volta che mi hanno fregato, poi mia moglie ha sentito la telefonata, che stavo facendo con quando mi ha telefonato qualche giorno, ha preso per il culo sicuramente, capo, 3 giorni sono passati, 4 giorni, 5 giorni, 6 giorni, non arrivavo, proviamo a rifare il numero, non rispondeva più nessuno, tutti dura riba, e mia moglie ha sentito la telefonata, ha detto qualche giorno era preoccupato, non so, ma te mi ha telefonato, ma ci hanno preso per il culo di qua, e mia moglie ha sentito la telefonata, ha detto, cosa ci ha buttato, 200 euro così, bravo. Ma poi sono così allucinanti le donne, invece di metterti su di morale, no, peggiorano ancora la situazione, ti fa sentire davvero una merda, e poi giustamente senza fare niente. Lo so, però non aveva tutti i tuffi, certo che tu non potevi sapere se dove stavi andando incontro. Ma mi sembrava troppo capitato che il microfono male, ho trovato l'apparecchio nuovo, mai usato, 200 euro, l'apparecchio costava quasi 1 milione, costava. Azotto, scusami un attimo, già mi stiamo chiamando per altri, arrivo subito. Ai. Gigi, mi è fatto sì. No, Gigi è andato a mangiare. Patrizia. Ehi, ha fatto. Ma poi sarebbe riesce ancora ad andare. Cavava, Antone, tutti e due i miei bigli, cazzatore, devo entrare tutto contento una volta, e poi faccio per compra, pure mi sono detto. È entrato una volta e ha detto che c'era questo negozio che era andato in fallimento, che aveva sequestrato tutto, questo giudice, questo ufficiale giudiziario aveva messo all'asta su eBay questa roba qua. Cazzo, ho detto, buttarmi, dicevo, cazzo, ma quando mai l'ufficiale giudiziario mette all'asta su eBay, le aste giudiziarie ce le hanno già loro, cazzo, boh, mi sarei messo la mastra, prendendo io. Non convenigli, però non mi ricordo se c'era Gio Maria, qualche, sai, gli erano mandati altri due apparati vecchi da vendere ancora, devo andare a vederli, adesso provo a chiamare, vedo un po' quando posso andare, così li guardo, qualcosa di vecchiotto, se non sbaglio anche con comandi laterali. Quelli di Mario Marco? Sicuramente, sto pensando a quello, la verità, se non sbaglio ne aveva uno o due in rimanenza. Io sapevo che ne aveva due che si doveva ritirare Claudio, perché se ne aveva comprati tutti i Claudio e quegli apparecchi, se ne doveva ritirare, poi non so se ce ne abbia altre due. Se capita l'occasione mi avvicino e vedo un po' cosa c'è. Comunque a tutti gli altri fuggito Antonio. Io ho anni che compravo, non ho mai preso una fottitura, sempre apparecchi funzionanti, capi, mi hanno mandato un Egrinquito che era la fine del mondo, poi l'ho venduto, un Egrinquito che pompava più forte, bello, il microfono me lo sono tenuto, l'ho venduto sempre al microfono, perché il microfono dell'Egrinquito è mitico, pompavivo. Beh, fatto sta che ho comprato quello, ho comprato diversi, un Galaxy che aveva praticamente anche 45 metri. Quello che hai dato, non te ne sei pentito già, non te ne fregava più niente. Quale Galaxy? Eh. Un po' sì, me ne sono pentito, sì. Un po' sì. Ma io lo busco un altro e quando rientrano i soldini, fregatene che già mi se lo ricordo. Se non sbaglio, dovrebbe averne uno, Gianni Dinamite, non so se ce l'ha ancora, 60 euro lui ce lo voleva, lo sta vendendo. Però perché da lui se ce l'ha ancora. E se l'ha messo male. No, funziona bene, io ho sempre sentito modulare con quello, dice però questi scatoloni non gli piacciono, dice. All'inizio sì, era contento e poi esteticamente non gli piaceva, una cosa e l'altra, l'hanno messo da parte. Dice, prova a chiedere a qualcuno se interessa, dice 60 euro, dice non mi interessa, costa anche di più, ma l'importante è che me lo faccio, che me lo faccio fuori. E lo sento mutuare e riusciva benissimo. Prova a chiederglielo, vedi un po' cosa ti dice, se ce l'ha 60 euro è un'occasione da non perdere per un apparato così. Sai benissimo che vai su internet e li stanno vendendo per 250, 350 euro. Sì, ho visto. Il turbo è anche 500. Quelle sono ancora più belli, non so, quelli anche 400 euro, ma lo sanno. E magari lo busco, c'è la Gigi 1, che è quello mio. E lo vende lui? E già si stufa Gigi, non gli piacciono così grandi. Ma diglielo prima che cambi idea, sa già almeno a chi darlo. Sembra un buon prezzo, Adesso scherziamo, io già lo busco, appunto sto scherzando di Gigi. Gigi se lo vuole anche modificare, se lo vuole tenere lui. Praticamente voglio comprare il turbo se lo trovo, ma più là perché adesso c'ho un po' di spese. Mi sono comprato la batteria, sono andato lì a 70 euro e andavo su 70 con la mia, come volevo io. Sono andato da Cappelli, me l'ha piazzata, tutto quanto, 4 anni di garanzia, e me l'ha fatta a 65 euro. sono andato bene, 4 di garanzia e di lusso. E dunque, diciamo, non ti ha dato più problemi, vero, da quando l'hai piazzata, nel senso quelli spietti si accendevano del motore, così via. No, ma qui sono andato stamattina presto prima di entrare a lavorare, ero lato alle 8, io tra le 8 e mezza qui sono entrato e ho detto lui al meccanico, controllami questa spiega, si accende, ha preso il coso, come si chiama, il terminalino, ha impostato tutti i dati, ha avuto sotto il vano della macchina, ha tolto la vicinanza, poi ha impostato tutto e mi ha scritto che doveva fare praticamente l'ispezione, praticamente tagliando, ma io tagliando siccome l'ho fatta al rifornitore e non ti cancellano la cosa, la scritta al rifornitore, quando ci stai tagliando la scritta non posso cancellare solo con l'apparecchiatura che non avevo, no? E quindi cosa succedeva? Che praticamente scrivevo sempre quella scritta lì, la centralina poi alla fine ti ha messo la spia del motore, no? Come se dovessi fare il coso, capito? Il cambiato. Sì, ho capito. Che poi è vero, ogni volta che quando si fa il cambio, quando fa la diagnosi, gli diciamo io la zio, gli dici sì, il cambio è stato fatto, riattivati a tot di chilometri, sì, ho capito, non è niente di particolare. Vabbè, 65 euro, 4 anni di garanzia, già manca bene come prezzo, 59 veniva a Città Mercato, però non so lì quanta garanzia ti davano, però 4 anni va più che bene. E capelli dove? Sempre lì nel... di fronte all'abbazione, no, si è cambiato. A Reconce, Antone, di fronte all'Eurospi. Ah, ho capito. E quando ero ragazzo andavo lì da lui per farmi rettificare il bizzone del sì, compravo le fasce, le guarnizioni. Come entrambi c'aveva il bancone sulla sinistra. Sì, bei tempi. No, questo dicevo di fronte ce l'aveva. E c'era questo mobile fatto in legno, un po' in metallo, con tutti i tipi di fasce, grandezza, spessore, bei tempi. Andavo sempre lì. E ti faceva anche la testata. Sì, ti revisionava tutto, sì. Faceva rettifiche e tutto. Adesso non so se lo faccio ancora, ma non credo, ormai moto non ce ne sono più come prima. Adesso quanto poi è diventato lusso avere un cinquantino, non per altro, è per l'assicurazione, il bollo. Fanno pagare un casino perché rubano di più, capito? Quello è. E poi i giovani sono pazzi in moto, c'è più rischio di avere incidenti. Infatti è così. E ma anche prima già, io mi ricordo che pagavo 20, no, cosa dicendo? 10.000 lire di bollo. Pagavo per il sì, mi ricordo benissimo questa assicurazione, due citti, ma veramente due citti contatti. Sembra che adesso per due ruote è impressionante, cioè vedo che il mercato è crollato, non hai possibilità di comprarti anche una moto, cosa che se bene o male risparmi in confronto alla macchina, invece no, paghi quanto una macchina, porca miseria. Invece il pezzo avrebbero lasciato come i vecchi tempi, a quest'ora, con un momento di crisi, la moto l'avrebbero avuto a tutti, come mezzo di trasporto uno avrebbe risparmiato pur andando a lavorare, invece no, manco quello, anche quel lusso ti hanno tolto qua, anzi ci hanno tolto. Io pago 240 euro con 400, 240 euro per un anno. Io spendo 235 euro ogni 6 mesi, dimmi tu, per un 1.200. Io Antonio ti vorrei presentare un amico che ti può fare magari qualcosa in meno di assicurazione. Io ho un amico che veramente il fratello di un mio amico, praticamente ha questa assicurazione, lui è un intermediario, fa un agente intermediario, no? C'ha tante assicurazioni. Se tu praticamente puoi risparmiare, dici mi guardi quella dove risparmio di più e lui te la cerca, dove paghi meno te la fa. Devo aspettare, guarda, al prossimo marzo scade, diciamo, e prima di scadere te lo dico e vediamo un po' di incontrare quanto mi fa questo. Ma poi anche prima informati se ti conviene, ma fai se non ti conviene. semplice per formarti, dire guardi, io voglio fare l'assicurazione, però voglio sapere quanto spendo per la mia macchina, punto. Fa crepare da ridere, perché quando risponde al telefono dice pronta. Allora senti quanto è forte, è impressionante. Attenta mia hermana, della scuscia di la Sardegna, avvolante. Avvolante mia hermana, della scuscia della Sardegna, e l'operatore Gianni del Caronè della città del Sassari che ti supercordializza. Oh, è pigliato a farmi da. Poi il bello che c'hanno là, l'invito di tenere abbastanza premuta la portante, non asciugano mai, no? Sì, la vedo, non è impresso. Attento mia mano, se scucci l'operatore Gianni del Caronè della città del Sassari che ti supercordializza, è una stato. Bucalaccia. Attento mia mano. Sicuramente, chissà quanti ci sentiranno a noi per dire, ci avranno provato tante volte e noi non li sentiamo alla fine. Però loro le maledizioni già spingono e problemi non ne hanno. Qui invece siamo abbastanza con le manette ancora per questi giocattolini così. Se non sbaglio avanti ieri, già si fa sentire ma lo sanno, è sempre a voce. Non ho mai capito se è una ragazza, se è una persona grande, ma la voce sembra un bel ragazzina, va, abbastanza sveglia, è casinista. E lì come tutto a te, pensando, no? Però c'è vero, Per piace da, come si chiama? Falchetto e Luca. Luca al primo periodo gli ha dato anche il numero di telefono frequente. Ah, Luca ha dato il numero di telefono a lei, così? Oh, lei a Luca. Te non l'ha mai chiamato? Ah, beh, magari non è vero. Stavo facendo gli ascolti anche gli altri frequenti. Ho visto che, diciamo, i radioamatori di Sassi hanno ripreso di nuovo. Una cosa che mi ha fatto incantare è vedere, loro c'hanno un bel gruppetto, si divertono, ti spostano da una parte all'altra, si organizzano per dire. Qua invece qualche accidente è un mortorio. Rinunciano? Sì, Rinù e poi l'FM, sì, un po' da tutte le parti, sui 14, 28, 20, è sempre un salta a salta. Guarda, sono su quella frequenza monitor e basta. Ma se fosse per la signorina basta, lo senta nessuno. Cosa c'erano oggi, ieri, e poi c'era un po' di propagazione, dunque facevano delle prove da una parte all'altra. Però allora, si divertono qualche accidente, è una piccola squadra, una battuta qua, una battuta là e via. Qui invece, boh, pare che sia a Fatimata tra 27. Ma che ci sono i giorni, se tu magari che non sei presente, ma ci sono i giorni che facciamo le battute e cose, c'era ieri, c'era una bella combriccola, una bella rotta. Ma per loro è entrato, no, ieri? Sì, sono entrati, abbiamo fatto due corsi, però io mi sono addormentato con la brutta, un po' stanco, poi io davanti adesso non mi ricordo. Questa sera c'era Giulio, ho sentito a Cosa, Graziano, a Gio Maria, poi c'era entrato di Uncino, insomma un po' di gente sta entrando. Ma quel Uncino sicuramente dalla macchina, perché ancora metto con un pugno che l'antenna non l'ha riparata ancora. Sì, dalla macchina. Ogni tanto si fa vivo, dai. le macchine sulla pattuglia fanno, hanno durato, si mette qua vicino a casa, la mia chitarrata la zona, perché lavora buona vicino a casa, basta che si metta lì, dove c'è la strada nuova, a Guglia. Sembra che non ne abbia Guglia, perché è abbastanza assente da un tempo a questa parte, Gioncino. E il rumore tante volte, Antone, tu sei meglio di me. L'umore a volte non è del meglio, perché allora magari si abbatte. E comunque io già anche in quei giorni, diciamo, quando ero, tra virgolette, spesso, diciamo, c'ero sempre in ascolto, nel senso non lo spegnevo mai, perché meno male la compagnia già lo fa sempre, dando un'occhiata, diciamo, a quelle persone che conosci. E certo, ma sarebbe stato bello anche entrare, fatti quattro chiacchiere, magari ti avrebbe anche distratto, va. Quello sì, ma peccato, mancano un po' di litigi, almeno movimentava di più le giornate. Come già? Beh, prima era là, un beautiful, un giorno ce n'era uno, un giorno ce n'era l'altro, ma già aveva lo stesso, faccio il tempo anche così, poi litigi, poi per cazzate alla fine. Ma beautiful è stato più per il mio apparecchio. No, lo sai cos'è che mi dà più paura? Cosa mi dà fastidio, la verità? Già, lui dice, ti diceva, dici bene, porca miseria, ma secondo me no, porca miseria. Non va bene, non è, non per me, cioè per il mio modo di ascoltare, per me non è adeguata per te. E per quello ho detto, cerca di fare qualcosa per migliorare, tutto lì. Esci bene, esci bene. Secondo me sì, esci bene, però non è la modulazione che fa per te. Tutto lì. Vabbè, oramai ho questo di apparecchio, mi chiamo questo. Quando torno a vendere, me lo vendo fuori, però non qua, me lo vendo fuori. Così almeno non c'è nessun problema. Me lo vendo su eBay, lo metto in vendita e mi compro il Galaxy Turbo. No, non è la stessa cosa. Io invece me l'avrei tenuto. Avrei provato facendo prestare da Pompugno, perché no, il microfono di Pompugno, vedere un po' se c'è qualche miglioramento o qualche tocco magico, tutto lì. Ma per me c'è la soluzione, e bene anche quella la 27, lo sperimenti, l'apparecchio ti piace, te lo dà la mano, cosa fare, e trovi l'abbinamento giusto, fate l'abbinamento e rimane lì sempre utilizzabile. Perché devi vendere? Assolutamente, uno dà consigli, poi giustamente sei tu a valutare, ma nelle prove non costano niente. Poi ho detto, sali a casa e prendi, le provi un po'. Dice, secondo me migliori ancora di più. Io diciamo quella contrarietà giusta che serve per te. Se non va bene quello che fai per fare da un altro, e poi quando trovi l'abbinamento giusto, che c'è due CT in più, te lo compri, tutto lì. Ma non io me l'avrei venduto, perché è un bel apparato. Dalla me se lo vendi e poi te lo faccio sentire io, se c'è bene, se vi sa tu. Allora è il mio modo di ascoltare, tutto lì, ripeto, io non me l'avrei venduto perché è bello, l'ho visto, è un bellissimo apparato, altro che avrei trovato l'abbinamento giusto, tutto lì, e me l'avrei tenuto, io dai, sta la nanna, signori, buonanotte, vi stavo ascoltando, vi stavo guardando la partita. Tu ce lo devi vendere quello, vendilo a me, te li do io i soldi. E me lo tengo io quella radio, come ce l'avevo, ed è sempre uscita bene. Quindi, torniamo sempre sul tuo discorso. Buonanotte signori, se la vendi Gianni fammelo sapere che te la compro io. Ciao, buonanotte. Ciao, sto scherzando. Non c'è problema. Avanti, Antonio. Ciao, buonanotte. Come diceva uno, sempre il doppio, lo vedi, sempre il doppio. Quella è una radio che non si deve dare mai, perché è nuova e funziona bene. Io l'ho avuta qua e già me ne ero pentito di averla data a Giampaolo. Immaginati tu, se mi capita l'occasione non me la riprendo immediatamente, anche se ne ho altre tre, ma non me ne frega niente, perché è un'ottima radio, punto e basta, è a capo. Ciao Gianni, buonanotte, ciao Antonè, abbiamo perso, ci hanno eliminato dalla Champions, adesso posso andare a dormire tranquillo. Ciao Cla. Yeah, ciao Cla, buonanotte. Hai visto, Antonè? Cattara, adesso magari faccio del tomaccio, no? Dove la radio, credo che era la sua, vabbè, la mia, pure passata ai Gigi, poi dico a Claudio, adesso faccio un passaggio, vado a Claudio, mi prendo i soldi, vado a Gigi e compro il gas e mi torno a casa. Ah, no, che poi ti manca il radioascolto, no, lo chiedi là, assolutamente no. Posso? No, c'è un blog, già. Una bella radio. Però ancora io la vedo in un modo, non si può mischiare ciò che può profano. Qua ci deve dare un microfono professionale, non un microfono così, 327. Un microfono bello, tipo l'MC80, cosa ti posso dire, SM20, tutti questi microfoni qua che si adattano a questa palla qua. Esatto, sì, il segreto è solo quello alla fine. È bello lo stesso, perché almeno ti impegna sempre per migliorare la stazione. Poi non si viene a abbinare un microfono che vada bene la tua voce, che anche la radio accetti, capito? Deve essere tutto ben abbinato. Voce, microfono per l'apparato, tutto lì. Sperimentare alla fine, è bello lo stesso. No, non è che ci vuole chissà che cosa, occasione. Un po' giù per domani vedrai che trovi la soluzione, secondo me. Tutto lì, è divertente uguale, come per le mie radio lo stesso. Ho visto che meno male queste BB più caro si abbina bene al 68, al Galaxy mi tengo questo, punto e basta. È finito lì senza salire a acquistare chissà che cosa. Prima mi hanno detto che la mia voce era robotica, allora mi hanno fatto mettere il cotone. Ho messo il cotone, non andava bene, guarda che c'è una lamella all'interno, che quella lì vibra, dunque tolta la lamella dell'MP4, sempre ascoltando giustamente i consigli degli altri, anche a me me l'hanno detto, ognuno ha detto la sua. Finché poi io ho trovato l'abbinamento giusto e l'ho fatto, sempre aggiungendo anche i consigli degli altri. Eppure sono arrivato al mio punto, va bene così, boh, basta, ma così rimane finché campo. Altrettanto fai tu, è sempre divertente lo stesso già, al di fuori sempre delle critiche, tra virgolette, uno dice giustamente quello che pensa, poi sei tu sempre a valutare, ma niente di problematico. Direi, vabbè, non che rimane così, ci sono cose più interessanti da fare. Devo fare la scuola della moto, che adesso comincia il bel tempo e me la devo usare ferma, ed è un peccato con queste giornate che mi è scaduta da poco, nel 2 mi è scaduta la sicurezza, la devo rifare. Io non faccio quello, e come faccio la sicurezza è quello che ho un apparato. Cosa fai questa prova, vai su internet e digiti Jennertel, e lì fai direttamente il preventivo online, immediato, metti il numero di targa, tutte le voci che devi compilare e poi ti esce il risultato, vedi un po' quanto spendi, perché io come ce ne la moto carrozzella, a Sassari ne volevano 800 euro all'anno, io si pagava in 6 mesi, all'anno 800 euro. Ho girato fino a trovato questa su internet, gli ho pagato 320 all'anno, dunque una bella cifra. Pagavi così tanto perché è un motocarro, cioè un Apple Poker diesel. Capito, io ho risparmiato un bel po', però va lì a vedere per la moto e vedi un po' quando ti viene. Lì in giro di 2 giorni c'è già l'assicurazione a casa. Jennertel, così è. Jennertel, sì. Digiti quello e poi c'è tutto il sito e ti fai direttamente, immediatamente il conteggio e ti dà subito il risultato. Poi chiami e diciamo, se ti va bene dai l'ok per l'assicurazione. Come paghi? Ah? Come paghi? Direttamente alle poste oppure con la Postpay direttamente. C'è molta gente che ce l'ha questa assicurazione, è abbastanza ventomata. È un'assicurazione internet dove diciamo ci lavora sicuramente una persona solo, lavora tramite computer. E sicuramente il risparmio c'è anche in quello, sai, meno personale, dunque non c'è bisogno di tutti questi dinari. E sono abbastanza veloce, io mi sono trovato bene. Sì, ma qui al punto di pagare, quando devo pagare come sono? Ah, qui quando c'è un caso di incidente, però non lo so. Perché Tanino, un amico mio, ha assicurazione online, adesso non mi ricordo quale, gli ha fatto un'assicurazione regolarmente al tipo, si sono accordati, hanno fatto il CIP, tutto qua, fa l'assicurazione e il tipo stava aspettando una telefonata e dice che risponde ma sempre la segreteria. Segreteria telefonica, quindi non poteva parlare. Alla fine si è rotto le balle, gli ha messo l'avvocato, questa ricordia l'ha fatto passare al Brasile e al Rio. E alla fine cosa c'entrava se questa assicurazione non rispondeva? Tu arrivato a un certo punto tu paghi anche per queste problematiche. Alla fine doveva passare casini l'assicurazione che non rispondeva. Ha telefonato, gli ha detto, adesso mi sono buriato, sono due settimane che sto cercando di contattare questa assicurazione inesistente, gli ha detto, un'assicurazione fantasma la sua. Carità, grazie. Dunque minimo ho dovuto pagare lui di tasca alla fine. O è ancora in causa? Guarda, non so come sia andata a finire alla fine, perché lui mi ha raccontato questa storia, però poi non gliel'ho più chiesto la vita. Però mi ha detto Giacca, non ti fa la sicurezza online, perché guarda che ha avuto peccato, tasca gira gira, non la faccio online per risparmiare qualcosa. Invece mi ha detto no già, tanto da quest'amico mio che ti sto dicendo ho risparmiato tra me e Liliana 500 euro ti basta. Qua a Sassari. E quando hai bisogno di parlare c'hai sempre dove poter andare. E poi c'è molto ben tomato a vedere dare Klein, un esempio. Quella è già da anni che fa pubblicità, sicuramente avrà molti clienti, eppure è online. Vuol dire che quell'azienda sicuramente funziona bene. Io una volta mi ha fatto fare un preventivo da loro, ma a quanto pare portava molto più di quella di Sassari, alla fine mi hanno mandato la lettera e dicevano che non eravamo molto competitivi per parte mia, dunque di riprovare un altro momento in caso di ulteriori sconti, ma alla fine non l'ho mai fatta. Però vedo che molta gente c'è anche quella di andare online, eppure online sicuramente è affidabile. C'hanno Roberto Ferrato, dovrebbe saperlo di più perché è nell'ambito, nel senso che lui c'è la carrozzeria, quindi li vede, ma mi pare che abbiano un solo pedito per tutta quanta la Sardegna, e quindi quando lo stanno quando a Cagliari, quando a Cagliari non può essere a Sassari, capito? Il casino è quello. Guarda, un solo pedito per tutta la Sardegna, sicuro, ragazzi. Sì, noi questo scorso di cui sono un po' all'acqua di rosa, diciamo che conviene solo nel momento che non c'è incidente, pur quando c'è l'incidente è un casino. Le altre assicurazioni c'hanno un avvocato dell'assicurazione, insomma, ti tutelano anche, ma anche qui non lo so, appunto il gioco. Non si guarda, io l'anno scorso ero con la... aspetta, questo faceva di Marrosu ed era... non mi ricordo il nome di questa assicurazione, perché ogni anno cambiava. E l'anno scorso, due anni fa pagavo 256 euro, dopo che è scaduto il contratto, sono andato lì a ripagare, a rinnovarlo, ho fatto, beh, quest'anno ho aumentato, e c'è un bel po', come un bel po'? Da 256 mi è arrivato a 320 euro, senza fortunatamente mai avuto incidenti dall'età di 18 anni, quando ho preso patente, dice purtroppo c'erano troppi aumenti e poi non è possibile, cosa è aumentato di 60 euro e purtroppo sì, stanno aumentando. Fortunatamente ho fatto un giro e sono riuscito a trovarla a 235 euro, dunque devi sempre rincorrere la meno costosa pur essendo a Sassari. Adesso mi sono messo nella RAS, che la sede ce l'ha lì al grattacielo a Sassari. Ehi, vabbè, una volta che ci vediamo andiamo insieme e parliamo. Questo c'è la Milano, c'è la Viva, c'è una parecchia, capito? Quindi tu guardi quella che ti conviene, non è che ne ha una solo. Tu mi fai l'intermediario, no? È un agente, un subagente, diciamo così. Che grazie sei Gianni assicurativa? Non me lo ricordo ancora. Prima categoria. E guarda, io sono in seconda, volta mesi io dovrebbe pagare di meno, invece ogni anno ci sono sempre aumenti, guarda, impressionante. E infatti ti fanno pagare l'aumento ma non ti scalano mai quello che ti devono scalare. Io ho scoperto, allora, la cognata, cioè la sorella di mia cognata, è entrata a lavorare in questa assicurazione, però già aveva già lavato in altre assicurazioni. E siccome era nuova ci ha chiesto se potevamo trasferirci di assicurazione, se ci potevamo trasferire per andare da lì, capito? Di modo che facesse un po' integrare i clienti, là. E così abbiamo fatto, ci siamo trasferiti io, mia moglie, mio cognato, insomma, tutta la famiglia per dargli un po' di clienti dall'inizio. Cioè, fatto sta che cosa ho scoperto? Che la sicurezza dove ero prima non mi, praticamente non mi abbassava mai di cose, di livello, praticamente di, mi faceva pagare solo gli aumenti, però ogni anno doveva anche diminuire il massimale, capito, che dovevo pagare, invece lasciava sempre lo stesso e quindi io pagavo sempre un bel. Infatti sono lucidanti, e poi a quanto pare solamente in Italia questi aumenti sproporzionati e gli incidenti sono diminuiti con la scusa di molti controlli, però agevolazioni veramente zero, guarda, no, non si può più andare avanti, non puoi neanche permetterti di avere una macchina, che ormai è diventata indispensabile, guarda, non si può vivere veramente in Italia. Voglio non sapere quanti chilometri fai adesso, perché più chilometri fai più paghi. Io sono come a capire che fosse 80 km all'ora, non sarà matto. Infatti, insomma, anche con l'assicurazione lì, sì, tu metti quanti chilometri fai e vai direttamente in paga l'assicurazione, ma narrami due. Le paghe c'hai, devi sapere se corri in macchina, se non corri. Io ci ho creato 80 km all'ora, ma non per nulla, per risparmiare. E alla fine sì, alla fine sì. Mi farà dopo un forno. Poi giustamente sempre a motore acceso, Quello normale. Se non c'è una notte non andiamo a frenare almeno. Io sono stato adesso una settimana, sono una cosa viaggiando, cercando quella, ho rifornito giovedì, no, mercoledì scorso. Ho rifornito adesso questo mercoledì e tra una settimana, una settimana di viaggio, ho speso 11 euro di gas, consuma pochissimo e fortunatamente. Ma io già ho fatto di più. Io ho messo anche 30, 31, quando ho fatto il vuoto, quando ho fatto completamente anche 31. Perché tu c'è il bombolone, io c'è il rotino. Tra una cosa e l'altra ci dovrebbero stare massimo 25 euro di gas. Dunque, gli ho messo 11 euro, la volta scorsa 13 e siamo di nuovo il pieno. Ma ho già consumato poco fortunatamente, ma sei lì a una media di 80 km orari in quinta, a Puglia, a puntina. Io bombolone, Antonio, io c'ho il bottino al posto della ruota di scorta, non l'astra, c'è il vano per mettere la ruota di scorta sotto, che rimane sotto al portabagagli dietro, rimane sotto, c'è una specie di sportellone, si alza e lì c'è la ruota di scorta con tutta la attrezzatura per smontarla, cric, eccetera, eccetera. Io cosa ho fatto? Ho portato per scorta, ci ho messo il coso, il bottino, al posto della ruota di scorta, bottino per il gas. La ruota di scorta l'ho messa sopra. E invece io l'avevo comprata la macchina, sì, con l'impianto del gas, e la ruota di scorta c'è il bottino. Il fatto sta che la ruota di scorta io non ne ho, mi avevo lasciato un kit di gonfiaggio con una schiuma particolare che ti rattoppa il foro, poi giustamente devi andare a sistemare la gomma. Infatti io dovrei procurare una ruota di scorta perché non so quanto potrà tenere con quel prodotto che mi hanno dato. Non ho dato, senza ruota di scorta non ho comprato la macchina. Quello era una cosa aggiuntiva. Sì, lo so. Lo so Antonio, stiamo facendo così adesso. Non lo io, ce l'ho. Ed è anche nuovo la mia ruota di scorta, l'ho mai usata. L'unico consiglio che ti posso dare è andare a un freno vecchio, qualche macchina incidentata uguale alla tua, che magari abbia la ruota di scorta, magari da trucchi anche nuova. Sì, quello sì, quello sai cos'è anche. Non è che la panda abbia un cofano abbastanza ampio come la tua, per dire, però ma la tua è come la familiare. Dunque prende un po' un bel po' di poco questa miseria. Dovrebbe trovare qualche rottino, che è meno spesso, anche se la circonferenza dovrebbe essere la stessa. Almeno ti recuperi un po', però ci vuole qualche miseria, se no guai. A me non mi dà nessun problema, piccola vita, perché deve essere un nylon sopra e non si vuole nemmeno. Poi praticamente c'ha la sua custodia a vuoto, dopo la custodia qui da cerniera, non si vuole più nulla. Per tu la macchina sempre a gas la fai andare oppure fai anche a periodi un po' a benzina e un po' a gas? Sempre a gas, Antonio. La mattina per protestare, scaldare la benzina, poi va a gas. Infatti molti consigliano di fare un po', di andare un po' a benzina, tutti dicono così, però anch'io sempre a gas anche la mattina, scalda, poi automaticamente si aziona quando arriva alla sua temperatura, anch'io sempre a gas, è la verità. Metterò 10 euro di benzina al mese tra una cosa e l'altra, tanto solamente per l'accensione non consuma niente. Quindi se non ho più 20, vabbè, ma sono esagerato, mi dura 2 mesi. E alla fine siamo lì. Ma fortunatamente, adesso con la scusa competitiva, diminuisce un po' il prezzo, bene o male risparmi in quell'atto, vai alla fine. Io mi ricordo un po' di anni fa, se non sbaglio, 3 anni fa l'avevo trovata a 50 centesimi il litro, adesso siamo sugli 80 centesimi. E il gas è il problema, l'auto è stato. E va adatto, e poi fortunatamente l'ho portato lì da GS Gas, da Gavini, mi ha messo questo prodotto all'interno della tubazione, mi ha sciolto diciamo l'incrostazione e dal giorno sta andando sempre bene, fortunatamente. Gavino l'ha portata per la vita? Sempre da lui. Ecco, è una bravissima persona, in gamba. È un tabile a Budas come? Assolutamente no, l'ha tenuta lì un quarto d'ora, accelera, spegni, accendi, spegni, dai da un'altra sciacquata, smontato, riempito di nuovo, t'ha fatto, riacceso, accelerato, molto, aspetta, quanto vediamo, niente, ci sentiamo, ciao, arrivederci, lì, ricordaci il filtro di cambiare ogni tot di chilometri, perché in città dice c'è il gas sporco, quando dice veramente schifo, e basta, già sono sempre qua, non c'è problema, ciao, grazie, arrivederci, no, è veramente una brava persona. È un traetto, portami clienti. No, quello no, quello no, sempre sigaretta accesa, è messa morbida. No, già una brava, sarebbe stato bello trovare gente così che lavora così onestamente, porca miseria, guarda, ti fa anche piacere. Sì, giustamente i guasti ci sono perché capita, però almeno sei sicuro che lo trovi una persona affidata e ti tratta bene, ma purtroppo è una cosa rara adesso a quanto pare trovare persone del genere. Ma quando ti fai l'impiatto 1200 euro ne si riguarda in una uglia. Ma attenzione, 1200 euro, poi c'è sempre l'incentivo statale che te ne paga il 40%, con una cosa e l'altra stai togliendo la tasca 600 euro. Sì, quello è vero, ci vuole 1200 euro, però te lo fa lui con la garanzia, ti metti il suo filtro brevettato, il suo particolare che ti tiene ancora la sporcizia. Non so se lo sai, lui ha inventato un filtro che ha studiato lui, brevettato, se non sbaglio viene a costare 150 euro, ma con quello risolvi i problemi e non ti dà più problemi diciamo alle iniettori, ti funziona sempre bene la macchina. Dunque, e quindi devi portare per cambiarglielo ogni 10.000 km, lui te lo cambia, te lo lava, te lo pulisce e paghi 10 euro. Però sei tranquillo che problemi non te ne dà più la macchina, viaggi sempre tranquillo. Però vedi giustamente purtroppo trovare di queste partite di gas sporco. A me la verità non mi dà di questi problemi, perché? Perché in effetti io lo metto sempre al conduttore e lì non è sporco il gas, capito? Lì è tranquillo. Ma voi ci dovrebbe essere due tipi di gas, c'è il GPL e l'altro il propano, è possibile? Aria, no, non il propano. Oltre al GPL, lasciando perdere il metano, c'è un altro combustibile, come si chiamava? Quello rimane ancora più pulito. Il propano, il metano. GPL sono dei gas misti. Grazie, stai mettendo il propano, sì, che rimane molto più pulita. Poi purtroppo c'è solo, ci sono gli apportatori, la salsa non ce l'è. No, no, assolutamente no. C'è apportatore, se poi andando a Urbia. Per lì viene di più o di meno, il GPL alla costa 700, io ho trovato 700, se non sbaglio 19 o 89, facciamo 789, dai, lì quanto lo paghi, lo stesso prezzo di meno? Questa è la regione, Antone, a volte così, a volte 8 qualche cosa, ma dipende dal giorno. Perché sta sempre variando come prezzo? Beh, avevo aumentato, ci ha abbassato di nuovo. Comunque ti dico una cosa, al massimo per noi è 32, quanti ce ne stanno di gas per te? Ora, se non sbaglio, il massimo l'ho fatto 25 litri, 26 massimo, dai, proprio essendo vuoto e riempiendo la crepatura, massimo 26 litri. Allora 50, da me ce ne stanno. Infatti, io ripeto, quanto ci vuole? Esagerando 22 euro, 23 euro per farmi il pieno, dai, una cosa del genere, tu mettevi di più, giustamente molto più grande allora. Sì, ma so che c'è un tanto che rimane vuoto del serbatoio, perché deve formarsi l'aria. Se tu sforzi la valvola, ce ne sta ancora, ne lo sai. Infatti loro seguono come si blocca per dire che è pieno, poi loro ripremendo diciamo la manopola insistono e piano piano ancora entra e lo fanno anche per arrotondare gli spiccioli, sì, quello già è vero. E come premuto di più, però intanto è lasciato per starci l'aria, perché va spinta dall'aria il gas. Sì, quello sì, e poi ti tiene il motore anche molto più pulito, anche lui non so se hai notato quando faccio il cambio, per dire, non rimane nero come la benzina, rimane, guarda, ci manca poco essere quasi pulito, e poi il tot di chilometri per dirgli fa, io lo cambio ogni 10.000 chilometri, sia l'olio che il filtro dell'olio, che ho fatto sempre così, e utilizzando il gas sempre pulito. Io da poco gli ho fatto olio, filtro olio, filtro dell'aria, tutto il fornitore, però filtro dell'aria e le candele. Ho cambiato tutto, però non te lo spengono la scritta ispezione, capito? Quindi a furia di insistere con la scritta lì, poi va a comunicare la centralina e la centralina ti manda a spiare il motore. Sì, quello si ascolta, è prima curiosità, quanto hai speso per tutto il cambio? 150 con le candele. Ah, con la barca di là. Allora io vi ho fatto 4 candele, 4 euro l'una della Bosch, giustamente chiedendo un amico. Poi ho beccato un altro amico, mi ha fatto comprare 3 litri di olio, perché ce ne stavano 2 litri e mezzo. 3 litri di olio me l'ha fatto pagare 8 euro, sintetico, Agit, 3.24, sì, 24 euro di olio. 4x4, 16 euro di candele, Bosch, nuove sempre. Poi il filtro dell'olio l'ho comprato lì in via Napoli, c'è il negozio del risparmio, non so se ci ha fatto caso, che vendono pezzi di ricambio per macchine, 5 euro, e lui mi ha fatto il cambio, conta, dunque ho speso quasi 40 euro e mi ho fatto il cambio. Tutto completo, 40 euro, fatto da me giustamente, io ho preso il materiale e poi me l'ho fatto io. Se tu fai quei lavori lì all'Apple, minimo 3,50. L'ho fatto un po' qui, che ho detto di 4 euro, non è giù più pulsato, che l'ha messo a punto tuo, vabbè, però è una cazzata, l'ha messo a punto, la fanno in 2 secondi. Vabbè, comunque, non l'ho speso molto perché io ho messo 4 kg di olio, 4x8 sono 32, no, 4 kg e mezzo ce ne stanno, vabbè, 4x8 sono 32, facciamo poi le candele sono particolari, sono di quelle a 3 punte, poi ho messo il filtro dell'olio, no, ci rientra e il bando brown te ne fanno pagare all'aggio. Ma non so così, se te lo fai tu, guarda, risparmi una barca di soldi. Adesso stasera ho trovato un amico, che è un camionista, e lui in più ne compra a Google perché ne mette anche 20 o 30 litri nei suoi mezzi diesel, e c'è anche l'olio benzina giustamente, e c'è questo Agip sintetico, lui lo paga 4,50 il litro, vedi tu, chissà da chi lo compra, però originale. Dunque dice non c'è problema, quando lo vuoi me lo dici, trovo al prezzo di costo che c'è, che l'ho preso io, 4,50, dunque mi servono 3 litri d'olio, 4 per 3, 12,50, io ho già comprato l'olio per la macchina, 5 euro di filtro e il cambio è fatto. Le chiavi a cielo, la chiave della candela è lo stesso, la chiave del filtro, la stessa catena, la chiave della coppa, ci metti mezz'oretta, poi con calma, e un quarto d'ora l'hai fatto. E tu ci accendi di nuovo la macchina perfettamente funzionante, revisionata. Con due cipi e giustamente facendo tutto tu. Ma là c'è la macchina per farvi cambiare giù. E ci metti il click sotto, intanto da svitare il tappo, qui abbasso, nel frattempo sotto c'è il contenitore, pulisco l'acqua, aspetto che scenda bene, chiudo, tolgo il filtro dell'olio, anche lì un po' di olio ne scende da lì, aspetto che smetta lo stesso, poi cambio il filtro bagnandogli la guarnizione, stringo con la catena, giustamente alto leggermente col click per il filtro, riabbasso, rabbocco, controllo, chiudo e fatto. Per 20 minuti là esagerando, in garage, ti attrezzi bene, guanti, cartone, tracce per pulire, e il gioco è fatto. E risparmio una barca di soldi. Ma qui c'è il posto, Antone. C'è il posto, hai le chiavi, tutto un altro. E comunque io risparmio lo stesso, perché se lo fa dal meccanico spendi un bel di più. Io praticamente in pezzi col fatto lì c'è, capito? In pezzi li ha comprati dal cambista, non è che ce li hanno loro, no? Non è che possono avere tutti i filtri, tutte le cose, tutte le macchine. Beh, quello sì. No, poi mi sto facendo un giro su internet, e so che lo vendono anche a Sassi, questo prodotto si chiama Sintoflon ET. Tu guarda su internet e vedi le caratteristiche di questo prodotto, che in poche parole, quando sei in prossimità di fare il cambio, 2000 km prima, aggiungi questo prodotto che ti super lubrifica il motore, poi fa da agente di pulizia all'interno del motore, diciamo ti pulisce tutti i conduttori dove passa l'olio, perché a volte lì col passare del tempo delle incrostazioni si formano, no? Lui te le scioglie, te le fa bloccare lì nel filtro dell'olio, dopo che hai fatto questi 2 chilometri, questi 2000 chilometri, fai scendere l'olio e ti fa scendere tutta la sporcizia, no? E ti rilava il motore internamente, e poi fai direttamente il cambio, e diciamo ti prolunga la vita del motore, ti viene a costare sui 20 euro questo additivo particolare. Guarda sul sito e ci sono tutte le caratteristiche, si chiama Sintoflon ET e viene fatto per mezzi con un tot di chilometri, minimo tu ne avrai quasi 180.000, dunque andrebbe bene fare una bella pulizia interna e ti dà più vita al motore. Ma io lo so, posso per 102.000 con il mio olio, non ci siamo compiti, il motore di 102.000 in questa azione non la fa, è un olio buonissimo. Sì, tutti dicono così, però sai, durante gli anni la combustione, un minimo diciamo di incrostazione all'interno del motore si forma, anche nelle fasce a raschia, infatti te lo spiega lì, e questo ti pulisce anche la camera di combustione. Poi c'è tutta la caratteristica, se non sbaglio dovrebbe essere un prodotto italiano, garantito abbastanza avventomato. Fate una ricerca su internet, c'è tutte le caratteristiche e le opzioni che ti offre per il tuo motore. Vedi un po' se ti interessa, e sto facendo un giro, cioè molte persone l'hanno usato, cioè sono trovate veramente bene. Non l'ho mai sentito questo prodotto qua. E tanto mai ho pensato che fosse Calvino a inventare quell'attrezzo che monta. Pensavo che fosse una cosa che lui pubblicizzava e basta. No, è cosa sua, che ha progettato, sperimentato e poi giustamente ha pagato anche il brevetto, oltretutto l'hanno brevettato, pagato, e lui lo monta tranquillamente con tanto di garanzia, diciamo proprio per ovviare a questi problemi del gas esporto alla fine. è una specie di sistema di filtraggio, esatto. E alla fine anche tu sicuramente ce l'hai un filtro per il gas, poi un altro filtro aggiuntivo, non so se l'hai visto, io l'ho visto, me l'ha fatto vedere, è abbastanza, diciamo, alto, no? Come contenitore, come fa da, come ti posso fare, come ti posso spiegare, da come filtro del gasolio, per dire, che sotto c'ha, tiene il deposito, decanta, no? E altrettanto fa lì con il gas. Ma io l'altro giorno sono andato per farvi cambiare il filtro, ma l'ha smontato, ma mi ha detto, ragazzo, cosa devi dire? Guarda questo filtro, non vedi il filtro sporco, questo è sporco, guarda il tuo. Si vede che vai a mettere un po' d'ottone. Cos'era perfettamente pulito, non c'era nessun residuo. No, è attivo, proprio nulla nulla. Hai visto là, non c'è poco da fare, vuol dire che c'è la garanzia, solo che uno che si deve riprendere andare al conduttore giustamente non le conviene, alla fine c'è costretto, diciamo, per avere un minimo di garanzia, fatti piazzare quel filtro da lui e viaggi tranquillo. Non so, sai che anche a me mi era successo che mi si era bloccata quella tipo valvola farfalla che cambia da gas a benzina. Lì si era bloccata perché si era fermato il catrame quando lo metteva a sasso, io lo mettevo la Udi prima, mi conveniva di passare, devo passare da casa, figurati. E poi lo sai cosa, mica conviene fare così, guarda, ogni volta che si rifornisce, ad esempio se il tuo, diciamo, rifornitore di fiducia, fatti lasciare una ricevuta, perché per forza devo rilasciare quando la richiedi, e te la conservi, cuffia, e te li conservi ogni volta che rifornisce, poi al momento che hai questi problemi, loro sono obbligati a risarcirti il danno per colpa del loro prodotto che ti hanno venduto, e attenzione, molti lo richiedono, e dovrebbe fare una sia per la benzina che per il gas che per il gasolio, male andando, diciamo, l'ultimo rifornimento ti dia problemi, loro per legge devono pagare i danni. Insomma, scarica la maglia sempre, quando glielo ho detto, infatti mi sono più tornato per quello, glielo ho detto di questa storia con te, sono chi porta il gas, le cisterne che sono sporche, probabilmente la spugnita altrimenti io non l'ho messo nella cisterna di gas, l'ho messo in questo rifornitore, e io mi lamento col gestore di questo rifornitore, gli ho detto. Infatti, poi giustamente dovrebbe essere anche loro interesse dare anche una garanzia che rifornisce, ma non gliene frega niente, ma io l'ho notato a Sassari, è una cosa impressionante, ma in qualsiasi negozio c'è un brutto vizio, sai cosa mi dà più fastidio? Quando tu giustamente acquisti un prodotto, paghi, no? Giustamente con la tua mano dai i soldi, non è che te lo prendo con delicatezza, te li strappano dalle mani, hai mai notato questo vizio brutto che hanno? Poi non ci fanno fare neanche con i clienti, tutti sbuffano, se devi chiedere qualcosa sembra che li stai infastidendo, guarda, è veramente allucinante, guarda, come ho notato, può essere moltissimi negozi a Sassari, se proprio il cliente non se la tira, no? Se no se tu prendi un prodotto che non funziona bene, tutte le scuse sono buone per non cambiare, no, ma lo mandiamo a centro assistenza, ma io l'ho comprato ieri, a me tu me lo devi cambiare, non è capito, non a centro assistenza, me lo devi cambiare un giorno, vai alla GBC se ti succede che non funziona qualche macchina, a vedere cosa ti fanno di studio. Che sei tu che magari sicuramente hai dato più corrente, che tu non devi scuse ma non ti diciamo. Io è vero, guarda, c'è questo brutto vizio a Sasser che è impressionante, guarda. Però ti, diciamo, volendo acquistare ti passa anche la voglia, per non ti dà neanche un minimo di garanzia, un consiglio, proprio a zero, sono freddi. Quando li chiami per dire non ci sono mai, sono esempio, se tu vai per esempio lì a Conforama, sono allucinanti, tu li cerchi, non li trovi mai, se li trovi sono sempre indaffarati, correndo da una parte all'altra, tu a volte capita alzi la mano, no, ti fai vedere, guarda che sono qua, mi serve una mano, loro corrono dritti, non si trovano neanche, ti serve qualcosa, vuole un consiglio proprio zero, cioè proprio questa maniera, guarda che è allucinante, proprio non ci sanno fare con nessuno. poca disponibilità, poco personale, naturalmente, perché tanto non è andato a colpo personale, perché lo metto a contatto e li farò fare mille cose. Io lo so perché ci sono in mezzo, quindi so che cosa vuol dire. Il cliente che ti chiede una cosa, tu le stai facendo un'altra, l'altro che ti chiama dall'altra parte, non sai più da pesci miliardi, alla fine tu ti incavoli perché non ce la fai più. Infatti è così, guardate, tanto lì per i fornitori, porca miseria, allora sai che la gente sta lamentando, telefoni, guarda che sono problemi, i miei clienti stanno lamentando, io non posso prendere i clienti per le vostre tronzate, no, ti metti, ci metti un minimo di interesse, controlli un po' come la situazione, fatti mettere dei filtri in più per garantire che il prodotto sia il più possibile pulito, proprio vero, e non, ma te che loro si fanno i soldi, ben puliti, sporchi, si attaccano la gente, poco gliene frega, e vanno avanti così. Ma guarda, è veramente allucinante. Proprio rispetto zero, ma in qualsiasi cosa, guarda. La WWD è una bravissima persona, perché come persona è bravissima. Una persona veramente in gamba, così, però non mi è piaciuto l'ultima volta quando ho detto questa cosa del gas. Che la colpa, quelli delle cisterne dicono che è perché la sala se non lo, diciamo, non lo filtra bene, no? Specialmente in inverno, quando c'è anche quello dei termosifoni, il gas e cose, per produrne di più non lo raffinano, capito? È importante che abbiano i loro interessi, poi per il resto come vanno le cose altre, si arrangiano e qua fa veramente a cagare la situazione. Prima bene o male, porca miseria, c'era molto più rispetto, ora invece guarda, se non fotti, non vivono, non ci guadagnano. Poi mi congiuro sta parlando di frutti due, mi si è bloccato il motorino di cristallo e tutti quanti la sostituzione del motorino, ne ha fatto due o tre. Uno solo è stato messo e ha detto: io devo fare il check-up e poi vediamo, perché queste macchine sono praticamente elettroniche, cose, vediamo, può essere quello, però bisogna avere per un tempo di venga domani. Beh, poi alla fine Giulia ha preso, ci ha messo 12 EVC, questa cosa, che ha ripreso a funzionare. Hai visto? No, mi ripeto, guarda, è l'unico proprio che si interessa quando vai lì a colpo sicuro, anche se c'ha le macchine e le blocca il gas, lui blocca tutto, dimmi se serve qualcosa, alza il cofano, controlla me, passa tra 5 minuti che lo faccio, anzi no, guarda, purtroppo c'è questo problema, passa per 2 giorni, bisogna fare così, così e così, immediatamente, sa dove mettere le mani e consigliarti immediatamente, ma senza farti aspettare, poi ripeto, come ha fatto a me. Ci voleva solamente questo liquido per sbloccare, stanno facendo altro, e ha detto è servito a me, non mi ha fatto pagare, tranquillamente, e mi ha servito riferito per dire con gentilezza, e ripeto, è l'unica persona che in quel ramo lì si comporta veramente onestamente, poi il resto è proprio per carità. E a me mi dice sempre, vai già, non fare i clienti, che sono su di lo stesso. Ah no, non è matto, te la fai del graino. No, un altro non è matto, però un altro direbbe, io sto lavorando e voglio il mio tanto, capito? Invece lui ha fatto così, ha questa teoria sua e dice che lui, secondo lui, se tu un cliente lo tratti bene, ti porta altri clienti, e magari l'altro cliente si mette l'impianto nuovo e lo fa guadagnare, capito? Ma invece lui dice cosa ha di quello, 60 euro come fa che su di voi tutto, l'ha detto, un tipo è venuto e si è lamentato che gli prendeva 60 euro ogni volta che gli faceva la pulizia del polmone e metteva questo prodotto. Guarda, te ne racconto una, adesso mi è venuta in mente, me l'ho dimenticato. Mia sorella aveva un po' di anni fa una Renault Clio, ne aveva acquistata nuova, stava lavorando. Se l'ha acquistata a 9, cioè adesso mi metto l'impianto del gas, l'ha portata da lui, mi ha messo l'impianto del gas, un mese e mezzo dopo mi stava dando problemi, l'ha portata da lui, poi non capisco, l'impianto è tutto a posto, l'ha portata al meccanico e si era bucato un pistone, cambia il pistone, ebbene due mesi dopo di nuovo il pistone si era ribucato di nuovo, solamente sempre quel pistone lì, in quella cameriera aveva problemi. E ha provato, se andava a benzina non succedeva niente, andava a gas e dava sempre questo problema. Dunque, meno male, ha cambiato 4 pistoni. è andato in messo, gli ha spiegato un po' la situazione, sai cosa ha fatto? L'ha rismontato l'impianto, perché alla fine si è accorto che quella macchina dava problemi, l'ha risarcita di tutto le spese che ha avuto per il meccanico, e non so se aveva speso 1.200 euro per il gas, gli ha restituiti. Più netto di così ne vuoi. E alla fine era, diciamo, il gas che dava problemi. Giustamente in questi 2 anni di garanzia ha cambiato, ripeto, 4 pistoni ogni volta, alla fine era il gas proprio che dava problemi. Era risarcita di tutti i soldi, dal primo sino all'ultimo centesimo. Come mai buttarlo in pistone il gas? Questa macchina, anche se mi hanno detto che è facile che si consumano prima. Ma io sono, è vero, molti mi hanno detto che anzi il motore rimane più pulito. Lo dice sicuramente che questo modello di macchina, dice, dava questi problemi, invece in quel modo non ne aveva mai fatto, ma non credeva che dava questi problemi. E per andando a benzina la macchina non ha avuto nessun problema, infatti, dopo che ha tolto l'impianto del gas, e giustamente andava a benzina, andava sempre bene, bene, senza mai un problema. E alla fine era quella, poi se l'ha rivenduta. E io ho conosciuto un amico, questo Dio Giuseppe, Cau di Sassari, aveva una Fiat Tempra, andava sempre completamente a gas, neanche a benzina, lui accendeva direttamente a gas, gli ha fatto 575.000 km a gas, degli poco, non l'ha mai portato al meccanico, il motore è sempre funzionante. E l'ha buttata funzionante, attenzione, ormai era vecchia, che non c'era neanche più sedili, con lo scotto era completamente rovinato dal sole, quello il motore era sempre perfettamente funzionante, e gli ha fatto 570.000 km, giustamente, considerando che pur andando al gas il motore è sempre nato per la benzina, dunque non credo che è dietro di questi problemi. Infatti a me hanno detto solo che consuma di più praticamente, che il motore a gas consuma di più pizzi, capito? Consuma di più pizzi del motore. Praticamente consuma di più pizzi del motore, però questo non sono sicuro che sia vero, perché dici che sono tanto addirittura quando devo fare il cammino, tu dicevo, ma proprio sotto il burro, dice burendi, questo e quell'altro, ma era tutta gente che non aveva avuto il piatto a gas, spero che se lo può fare il piatto a gas di vita. Vabbè, ancora c'è questa mania, quando c'è la benzina lo stesso, c'è una bomba sotto il culo, anche lì batte una scintilla e prende fuoco ugualmente, alla fine c'è poco da fuggire, ma fortunatamente già, almeno adesso sono un pochettino, c'hanno un bel po' di sicurezza in caso di incidente, quindi anche questo incidente, quindi c'è la prova di sicurezza per il gas, blocca automaticamente tutte le tubature, per dire, problemi non ce ne sono. Io sono buddi in opportuna dalla macchina, che c'era la macchina in fiamme, capito? Nessuno si avvicinava, tutti guardavano, ma per lo sportello l'ho portata fuori, con il rischio di bidarlo guburino. E l'ho portata fuori, lì gridava che c'era in casa del negozio, ho detto, lascia perdere in casa, come ci siamo allontanati, e ha scoppiato, c'era in casa a gas. Cazzo, dopo poco che l'ha tirata fuori. E dopo un po', aspettando i pompieri, l'ha tirata fuori, l'abbiamo portata fuori, e dopo grazie che era successo. E praticamente, aspettando i pompieri, ha scoppiato. Meno male che l'ho detto, state tutti lontani, perché ha detto che aveva tanta gas e ci ha avvisato. Boom, mi avvocco. Già lo so, è allucinante, porca miseria, già ne fa casino, però bene o male, dai, uno spera sempre nel meglio, è peccato che qua non abbiamo noi il, come si chiama quello, non il profano, quello che viene ancora di meno, il fanculo, questo tipo di gas particolare, che in Italia lo paghi 30 centesimi il litro. Cos'è, metano? E il metano, è peccato che qua non c'è, se no guarda sarebbe stata una meraviglia, solo che l'impianto che abbiamo noi per il metano non va bene. Posso questo? No, comunque non siamo ancora i fornitori qua, in continente ci sono. Ovviamente mettiamo propano, due sono le cose, o uno o l'altro. E la guarda, comunque va bene anche questo, ti fa risparmiare, anche se hanno detto che dovrebbe salire di prezzo, che questo, che l'altro, e io ho detto a quello di frutta, ho detto, ma deve salire, si è diminuito. Infatti poi si è notato, costa sempre la metà della benzina, e anche qualche centesimo in meno, risparmia sempre ugualmente. Comunque non è a tutte le macchine che va bene, quello è brutto, però si addice tutto benissimo, va benissimo. Io c'avevo questo amico che mi diceva, mettiti l'impianto, mettiti l'impianto, che risparmi, dice, ma chi devi pagare per esempio 50 euro al mese quando ne puoi pagare la metà? E io non ne volevo sapere, dico la verità, ero ignorante da quel punto di vista, perché pensavo che era pericoloso e cose. Poi ho parlato con il fratello di Natalino un giorno, sono andato a casa sua perché c'era l'intanto che si metto già, ha detto, se te lo metti il riso, mi ha detto. Non ci credi da quello che ti dicono, che la gente che parla è quella che non ci ha mai avuto l'impianto. Io c'ho l'impianto, sto lavorando a Sosso, non è che sto viaggiando e cose, ragazzi, non è gioco di litigare di buoni gas. Infatti è così, dunque alla fine tu l'hai comprata benzina, poi l'hai fatto l'impianto. No, io quando l'avevo acquistata, se aggiungevo 150 euro, avevo l'impianto del gas, perché non approfittarne, così ho fatto quando ho acquistato la Panda. All'epoca lavoravo lì di Amendo, la Xilema Arredamenti, per trovare la Rose Fiu, e ho detto cambiamoci la macchina, era anche abbastanza vecchiotta, la mia c'era un percorso a 1012 valvole e 3 cilindri, e avevo preso la Panda, direttamente con l'impianto del gas dalla fabbrica, garantito, costruito, come diceva la pubblicità, costruito e garantito dalla casa Fiat. E mi sono trovato sempre bene, 1200 a Puglia. E pensi che almeno di quell'impianto lì ce l'ha, perché lui tratta due tipi di impianti e c'ha solo i pezzi di quell'impianti lì, perché a volte vanno roulotte, camper, che non impianta il gas, non ne fa perché non c'ha quel tipo di coso lì, quel tipo di pezzi. Infatti lui me l'ha spiegato, io metto così, allora dunque, se per dire la mia macchina si rompe l'iniettore, bisogna toglierlo e sostituirlo, 100 euro costa. Invece se lui ti mette i suoi iniettori, quelli che utilizza lui, dal momento in cui l'iniettore si intasa, lui lo smonta, lo pulisce, dice li cambio una quantità e lo rimonto e ne prendo 30 euro e sta di nuovo ripartendo con lo stesso iniettore. Invece con quello della Fiat non li puoi smontare. Dunque c'è sempre la fregatura, capito? Se te lo fa lui, te li pulisce e te riparte. La Fiat è 100 euro uno, dunque dai 4 iniettori ce ne vogliono 400, se si intasano tutti e 4, e non li puoi smontare, pulire e ripiazzare, devi buttarli e riacquistarli nuovi, per dire. E mi ha spiegato anche questo, di più di voi già alla fine. Perché... tu lo sai che se avevo fatto un impianto lui con un motore 500 ce l'ha fatto praticamente tipo, cosa ti posso dire, la centrale Fiume Sacro ce l'ha presente, però in piccolo ce l'aveva fatto con un motore 500 che faceva girare le eliche e produceva l'energia per tutta la casa. Sì, questo qua. Allora. Ah beh, guarda a vedere se non ne sai, porca miseria. Dunque, minimo se li porti anche un 126, una 500, te lo fa anche direttamente l'impianto del gas, te lo immagini? Lui aveva fatto questo impianto qua, che praticamente riproduceva l'elettricità per tutta la casa. E anche lì mi pare che abbia qualche impianto particolare sopra l'officina, adesso non lo so, però prima ce l'ho bella. È un fatto furioso, si inventa un bel roba, prima c'era il padre di me. Lui ha conosciuto sempre a lui questi due dipendenti e poi la sorella, che ogni tanto la vedeva in ufficio, rimane molto scura di carnagione, e sempre a lui al femminile, anche lì c'è un po' di strada abbastanza grosso di cilindrata e l'ho vista rifornire lì alla IS direttamente il gas. Loro sembra che vadano lì, sicuramente sanno che c'è un minimo di sicurezza, là sembra più tranquillo come impianto di rifornimento. Questa IS. Quindi dopo Columbano. Ah, ho capito. sempre detto che tu che lo puoi fare, fallo. E mentre lui sa se ha ragione. È appurato, chi lo mette lì non si sporca nel piatto. Come andare con le cose, abbiamo dato anche un bigliettino dove c'erano lì, diciamo, impianti sicuri, e lui è l'unico più vicino in provincia, la zona più vicina lì era Porto Torres, ma alla fine a me personalmente non conviene, tu che stai lì a lavorare ogni giorno, giustamente, vai, rifornisci e poi rientri a casa a Puglia. Quando ti fa un pieno, una settimana di viaggio te lo fa, andata e ritorno, da lunedì al venerdì, un pieno ti basta. Sì, sì, sono a sabato. E basta, mi basta giusto, non mi ricordo, fornisco di nuovo. E a Puglia, sempre girando, e ce n'è, il buco va di te sempre risparmiando, fai 30, aspetta, 35 ore a settimana, va più che bene. A Puglia, se prima erano, quando la benzina non era montata, sulle 60 euro un pieno. Lussi, quanto è un 1400 la tua, giusto? Purtroppo, 1400 è pure pesante, quindi sforza. Ah sì, e a Puglia hanno già fatto la cosa più giusta, almeno si risparmia. Ma Bugia, io vado a guardare un po' di TV, ci sentiamo domani, dai, buon proseguimento, grazie delle due chiacchierate, ci sentiamo domani. Yeah, ciao Antonio, ci sentiamo, buonanotte e buona giornata per domani, ciao ciao. E io ti ringrazio, ciao, domani.